quindi se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. Mattino di Alessandro Milan. Quando ti chiami Milan non puoi adattarti a normalità, non puoi volare basso. Ma non è clandestino, argelino, clandestino, mexicano, clandestino, marijuana, immigrati, immigrazione, la Merkel, aiutiamo l'Italia, gli immigrati, la figlia di la coppia uccisa probabilmente dall'immigrato è colpa dello Stato, immigrati, immigrazione. Giornali di oggi, immigrati, no, ci sono anche altre notizie, perché però non se ne può più. Un po' non se ne può più, ve lo dico, non se ne può più. Allora, cari ascoltatori, è il secondo giorno di 24 mattino. Le facce, ho detto questa frase, le facce di Peter Bescapè in regia e Lorenzo Nespoli sembravano coordinate come in un balletto di nuoto sincronizzato, ma non lo sapevano ovviamente, hanno fatto la faccia, come dire, come tradurla questa faccia. Ecco, secondo giorno, appena il secondo. Ma è così, poi si prende l'abbrivio, poi dopo la sveglia delle 5 sembra una roba quasi naturale, dice ti sveglia alle 4, dice allora arriva la sveglia delle 5 qui, arriva la sveglia delle 5? È l'inizio, siamo un po' arrugginiti. Imparate dalle padane vere. Ecco, imparate dalle padane vere, gente che ha fatto le 2 di notte, le 3 di notte questa notte ed è qui con noi in diretta. Sarà l'aurora. Ebbene sì, l'aurora lussana. E so che sopravvissuta alla Bergenfest. Alla Bergenfest. Non ho più la US, non c'ho più la voce. Sì, vabbè, adesso la devi fare tutta in traduzione simultanea, cioè prima dici e poi traduci, non lo so. Ma allora, buongiorno Milan. Come stai, novella sposa, reduce da... Ma no, che sono sposata a giugno, Milan, siamo al primo di settembre. Ah, ti dici sei già in fase... Sì, già consumato. E beh, voglio ben sperare che... Già consumato. Voglio ben bene, sperare. No, tutto bene, un caro saluto a te, un caro... Cioè, gli amici di Radio 24 sì. Sono tornati tutti, immagino, sì? Sì, sì. Allora, buongiornati a loro, migranti e nonna, e cosa ti devo dire? E keep niente. Calma ed ovra la pacchera. Cos'è questa? No. Com'è? Orobian British. Infatti, com'è? Keep calm e? Dovra la pacchera. Cos'è la pacchera? Non sai cos'è la pacchera? Oddio, adesso. No, vabbè, però, ma che maschio sei che non sai cos'è la pacchera? La ruspa. Ah, la ruspa. Tu pensa che subito Peter Bescapè aveva pensato chissà cosa, la pacchera. La ruspa. La ruspa, Peter, fai il bravo, la ruspa. Comunque, qua reduce da Bergenfest. Ma senti, ho una domanda intanto. Ma ieri qua avevamo Salvini in onda. Come no? Certo, sì, perché domenica raccontavo, ho aperto il ripostiglio, è uscito Salvini, allora gli ho detto, senta, venga domani anche in onda, già che c'è. E vabbè. E ieri sera alla Bergenfest, sì, con il appunto. Governatore di tutti i Veneti, Luca Zaia. Va bene, di tutti i Veneti. Ma quando c'è Salvini tipo Radio 24, gli ascoltatori di Radio Padania abbandonano Radio Padania e ascoltano Radio 24 per dovere ideologico? Ci piacerebbe, Milan. No, rimangono sulla pacchera, cioè sulla ruspa, e continuano a guidare, ascoltando ovviamente Radio Padania. Va bene. Sì. Era un dubbio che avevo. Va bene, cara Aurora Lussana, sai che abbiamo chiamato con te la migliore amica dei migranti. La comunistona doc di 24 Mattino. Buongiorno. Veronica Gentili, anche lei reduce da una festa, quella del Fatto Quotidiano, dove sì, credo che i temi. Festa siamo state. Sì, credo che i temi siano stati un po' affrontati in maniera, con un approccio un po' diverso rispetto a quello della Bergenfest, credo. No, perché dici così? Secondo me più o meno era quello. Sì, cioè il tema era lo stesso, forse, non lo so. Il tema no, forse neanche quello era lo stesso, perché non si è focalizzato sul tema immigrazione. Ecco. Ma non era, anche se in realtà l'argomento è un po' lo stesso per, su tutti i fronti, perché sì. Guardando in questi giorni tutte le intercettazioni di Mafia Capitale, riguardando le parole di Odeven, diciamo che il cara di Mineo è sempre stato molto d'attualità. È vero. Tutto si ricongiunge. C'è questo interrogatorio di Luca Odeven, beccato e accusato di far parte di Mafia Capitale, e lui dice in questo interrogatorio che effettivamente gli appalti per il CARA di Mineo probabilmente erano, come dire, un po' truccati per farli arrivare a una cooperativa piuttosto che a un'altra. Allora, cara Veronica, quest'anno però bisogna cambiare un po' registro, te lo no, dico. Non cominciamo subito. No, dai, allora. Ma guarda, quest'anno poi fresca di mare, non so neanche come è fatto un campo. Cioè proprio, un campo di grano, non so, qualunque altra cosa, ma guarda, proprio il campo di calcio, non cominciamo, Allora, so che c'è un lutto laziale, ma sì, più di questo non so, vabbè. Guarda. Allora, cioè, vabbè, dai, una Roma-Juventus, sai chi ha vinto domenica? Sì, soltanto perché eravamo alla festa del Fatto e c'era un attimo di panico generale. E cioè sì, chi ha vinto? La Roma. La Roma, questo il risultato non te lo chiedo. Ma soltanto no, sì, no, per carità. Forse 2-0, poi è successo qualcos'altro. No, 2-1, vabbè, per la verità. Pure questa vuoi, dai. Vabbè, ma tu hai ascoltato la sigla iniziale, eri già in onda, cioè sai che abbiamo una voce, cioè, te la faccio sentire, cioè, perché te la faccio sentire, Quando ti chiami Milan non puoi adattarti a normalità, non puoi volare basso. Io la metto come sigla, ma perché tu sai chi è questo che ha detto. No? No. Dov'è? Con ingenuità totale. No! Effettivamente. Dovrei saperlo? Pensavo fosse un ascoltatore, no? No. È il nuovo allenatore del Milan che ha detto questa frase che mi ha tirato proprio una. Quando ti chiami Milan. Perché tu sai chi è il nuovo allenatore del Milan. Vabbè, dai, basta. Dai, ma perché basta. Lo fai? Perché lo fai? Non so, Aurora, che dobbiamo fare qui con Veronica? Allora, Gentile? Ti dico solo che pare che ieri sera Salvini. Sì. No? In qualche modo avrebbe dato forfait in Valseriana alla Bergenfest per un appuntamento ad Arcore con Silvio Berlusconi. Ma tu guarda, vedi che è un menzognero, che ieri mattina gliel'ho chiesto, avete un giorno e lui mi ha detto non abbiamo nessun appuntamento fissato. Ma vedi che dice le bugie? No, allora Milan, sì. pare che ci fosse questo rischio, no? Sì. Di un forfait di Salvini in Valseriana, perché cosa faceva? Doveva andare ad Arcore con Silvio Berlusconi. Ma in realtà Maggiore è arrivato alla Bergenfest di Alzano Lombardo perché? Perché ieri sera ha detto Berlusconi si deve concentrare su cose più importanti, ovvero alle 23, tu sai, ieri sera chiudeva il calciomercato. E infatti non ha comprato nessuno, nessuno abbiamo comprato. Vabbè, chiudiamo così col calcio, guardalo, dai, perché sennò Veronica Gentili mi si deprime. È l'unico motore che ti ha riportato qui, è l'unico motore che ti ha riportato calcio. A vivere. Sì, questa certo, è la verità. Certo. A me il calcio e a Peter Bescapè la pacchera, cioè la ruspa. Allora dai, pacchera. Apriamo il Parlamento, va, che che siamo alle 6:35 adesso minuti. Vado a prendere un caffè, quindi semmai ci vediamo più tardi. Grazie. Allora, 349-238-6666 se volete il numero di SMS. E allora qua Veronica Gentile, allora Lussana, dobbiamo parlare di una roba molto seria, no? Questo omicidio che c'è stato a Catania, in provincia di Catania, a Palagonia, perché ci sono state queste frasi molto forti della figlia delle due persone uccise, che vogliamo anche sentire, che accusa lo Stato e dice: Renzi batta un colpo, dica qualcosa. Renzi non ha detto niente per ora. Non... Ha chiesto scusa. Ha chiesto scusa? Uh-huh. Ma quando? Parliamo di immigrazione, sì. Parliamo di migranti, parliamo di clandestini. Ma no, dai, parliamo di è un omicidio. Cioè, allora, bravo, un omicidio, però il simpatico uvoriano sedicente profugo. Mm. Se ci fosse stato un governo di centrodestra che ha attuato politiche anti-immigrazioniste, no, non sì, sarebbe mai non sbarcato sarebbe a Lampedusa come è sbarcato a giugno. Quindi è vero, però se mia nonna c'aveva tre palle era un duplo anche, possiamo aggiungere, no? Mm. Quindi non si può l'Italia, fare l'Italia, Veronica, ormai di è terra poi, di conquista. L'Italia è terra di conquista ormai, Veronica. Addirittura. Ma non solo l'Italia, è per questo che è finita, secondo me, anche l'epoca di un certo tipo di demagogia che viene fatta dalle destre xenofobe. Ormai succede dappertutto, quindi anche sentirci le uniche vittime di questi barconi che arrivano, tutte gli sproloqui sull'affondiamo i barconi, gli scafisti. A questo punto, anzi, adesso c'è questa speculazione che piace tanto a tutti sulla parola scafista. Sentivo ieri Salvini che parla dello stato scafista, gli scafisti dell'asfalto, lo scafismo è stato, adesso è molto alla page questa parola, quindi la sentiremo in tutte le salse. Mi sembra che la dimostrazione è arrivata dall'esterno, questo è un problema che riveste ormai che sia in tutta Europa, questo sì. E quindi anche questo nostro essere, no, gli unici elementi tirati in mezzo e poterlo utilizzare come argomento di politica interna in maniera così forte in termini elettorali, in termini di consenso, secondo me comincia a decadere. Comunque, perché è talmente più ampio che ormai ci resta la preghiera dell'Alpino. Sì, la preghiera dell'Alpino, la polemica della preghiera dell'Alpino. Vabbè, vogliamo sentire le parole della figlia, perché la figlia dice delle parole molto forti, Io mi sono fatta 1500 chilometri per venire qui a trovare i miei genitori non più vivi, ma massacrati da delle bestie che il governo si ostina a portare ancora e a cogliere. Io voglio un contatto diretto dal ministro, dal premier Renzi, che invece di andare ogni giorno all'Expo venga qui a vedere la situazione com'è, perché due anziani dopo una vita di sacrifici non possono essere ammazzati così. Insomma, quando dice che il governo si ostina ad accogliere, in qualche modo devo dire Aurora Lussana ha ragione in questo caso, no? Cioè, l'attacco è frontale, non si può certo tacciare, credo, di leghismo questa qui non c'è figlia. Niente da commentare davanti a un episodio di questa violenza e a un fatto personale come questo. A mio avviso questa signora può dire tutto quello che vuole ed è più che legittimata. Detto questo, c'è un'implicazione personale fortissima ed è un caso, però vogliamo riconoscere, abbastanza estremo e parossistico, perché non è che il genere di crimine migratorio che viene contestato è un duplice omicidio efferato con uno sgozzamento e quello è ovvio. È chiaro che non possiamo dire che adesso sono tutti così, questo neanche Aurora lo sa, neanche tu puoi dire Aurora, non è che mi viene a dire adesso vedete gli immigrati portano queste... Ma non parliamo neanche del furto, non stiamo parlando di quel genere di crimine che possiamo iniziare. Sì, peraltro vogliamo dire che il procuratore ha detto che ci dovrebbero essere altri due o tre complici, cioè può darsi neanche che abbia fatto tutto da solo, anzi è quasi escluso che possa aver fatto tutto da solo una cosa. Ma poi è una storia molto nebulosa, perché comunque che una rapina finisca con questa violenza, soprattutto con due persone comunque di età che non so con quanta convinzione si siano difese, è una storia molto strana. Però io vorrei capire una cosa, visto che Aurora Lussana oggi su Repubblica, sempre questa figlia, alla domanda guardi, ma non è che così rischia di, come dire, tirare anche un po' dalla sua parte tutti quei politici che montano su questi casi, e ovviamente si riferisce anche a Salvini. Questa figlia dice: io i politici fanno solo chiacchiere e non mi interessa, io voglio fatti. Ecco, forse una certa strumentalizzazione di queste parole c'è stata un po', o no, Aurora? La figlia, quando dice Renzi venga qui a spiegarci, racconta di un paese che ormai è vittima di un'invasione, vede gente che arriva e si dichiara Carlo Marx. Cioè, noi abbiamo africani che sbarcano e si dichiarano Carlo Marx e ci prendono anche per il culo, Milan, e quindi vengono anche in casa nostra ad accopparci, ci pisceranno in testa. Milan però hanno già vinto, non c'è Salvini che hanno tenga già vinto, perché gente hanno che è disposta a morire asfissiata e non tira ha già vinto, non è che sono tutti uguali, voglio dire, cioè c'è gente che muore, che ci lascia le penne per ci sono bambini che io sono... capisco che tu sei attratto dalla mistica del migrante, ma purtroppo la vostra è diventata cecità, Aurora, te lo dico veramente col cuore in mano. Non voler vedere il sono difesa dei confini. Io credo che se non mettiamo regole all'immigrazione finiremo davvero noi nelle riserve. Così arriviamo all'atteggiamento, capito, esasperato della dell'Inghilterra esasperato. È un atteggiamento, cioè l'Inghilterra per esempio la vede così. Volete accogliere, ieri, tollerare, integrare, meticciare tutto, siete per la teologia del migrante, un po' Veronica Gentili, sì, un po' così. Io no, per esempio, però io sono molto dibattuto. Io mi sveglio al mattino e sono dibattuto sulla pettinatura che ho. Figurati se ho delle idee chiare su queste cose così importanti. Però sono molto combattuto. Cioè, questo lo dico, sono molto combattuto. Quando sento una figlia come questa dire queste parole, non posso che stare dalla sua parte e dire ha totalmente ragione, anche quando si dice lì. Perché ha vissuto un dramma personale, individuale. Però scusa Milan, tu e Veronica, sì, ancora, raccontate un po' l'Italia che dice quando c'è un fatto di cronaca nera legato all'immigrazione, Salvini, Legaioli in genere sfruttano questo fatto di cronaca nera a fini politici. No, perché quando tu hai una visione del mondo anti-immigrazionista, perché con l'immigrazione stiamo uccidendo l'Africa, con l'immigrazione stiamo uccidendo l'Europa. Ci sono modelli culturali di civiltà diversi. L'immigrazione è la volontà di meticciare due realtà, l'Africa e l'Europa, per semplificare, al fine di uccidere identità e popoli. Ma tu lo dici come se ci fosse, Aurora, come se ci fosse un disegno sovrano. Esatto, invece ma no, le migrazioni esistono, cioè non ci puoi fare nulla. Non ci puoi fare nulla. Non è un evento ineluttabile. Ma invece sì, per questo ti dico che c'è un pensiero onnipotente. Questa visione, ripeto, mistica, per cui è ineluttabile. No, io credo che ci possano essere delle regole. Si può regolare, si può gestire. Le politiche africane, perché loro non abbiano bisogno di scappare qui in maniera così emergenziale, che non ci siano tutta una serie di fenomeni che sono propedeutici. Ma se esiste un corso storico, non lo puoi arrestare tu, xenofoba, non lo può fare. Vabbè, però siamo diventati due contro uno, non vale. Non ti mettere in ginocchio, però se c'è Salvini non puoi stare anche in piedi o seduta o sdraiata, come sei. Vogliamo sentire Salvini che dice che il centro di Mineo va sigillato come tutti gli altri centri, che è un po' come ieri ha detto, identifichiamoli, l'ha detto qui a 24 mattina, identifichiamoli sulle navi. E gli ho detto, ma poi quando ne arrivano troppi e sulle navi non ci stanno più e li rimandiamo indietro, che è perfetta come teoria, se fosse applicabile, perché non è che tutto è applicabile in maniera, come dire, andiamo in Libia e sistemiamo tutto. E infatti siamo andati in Libia, abbiamo fatto un casotto che metà ne basta. Comunque Salvini, questo centro di Mineo, questo fottutissimo centro di Mineo, nel quale tu sei stato più di una volta, ricordiamo, ci sono stato 4 volte. A me inizia poi a dar fastidio che arrivino in ritardo a dare ragione a quelli della Lega dopo qualche mese o dopo qualche morto. Va chiuso, andrebbe sigillato domani mattina con tutti quelli che ci sono dentro, italiani o stranieri che siano, perché è un business da quasi 100 milioni di euro. Da Radio Padania, devo dire, Libera. Tra l'altro, scusa Aurora, viene una domanda da un ascoltatore via SMS: a Radio Padania Libera da cosa? Ma la libertà è trascendente, la Padania è la terra promessa. Effettivamente, dopo anni è arrivato un ascoltatore che ci ha mandato un sms a porci questo dubbio amletico. Ma da cosa libera? La Padania libera è come l'aloe vera, capito? Che tutti ti chiedono se c'è quella falsa, no? ecco appunto, libera, Radio Padania libera. Dai Aurora, su. Oh, ma potrà la gente credere nella sua terra promessa? Ma certo, ma certo, sovrana. Ma certo, ma certo. Intanto comunque, andiamo. Comunque, dopo 4 anni di governo di centrosinistra, non poteva che finire così. Centrosinistra cosa vuole? Eccola. L'immigrazione incontrollata. Ecco. È così, e sono 4 anni. Una dichiarazione che hanno... vagamente non politica. Da... No, ma no, ma lo dico. Posso da allora, sì. Da politologa. Sì. No, giusto. Sono una scienziata, sono laureata in scienze politiche. Sì. Allora, come me. Ecco, vedi, quindi alla statale di Milano, ne abbiamo già parlato. Via Conservatorio, sala fumo tu e io no, sì, vabbè. Anni gloriosi. Anni allora gloriosi. La sinistra, il governo da 4 anni, ha fatto uno spot a tutto il mondo, a tutta l'Africa. Venite, c'è posto per tutti, vi mandiamo la nostra marina militare a salvarvi, sì. Anche se vi buttate sulla battigia della Libia. E questo risultato, e hanno smantellato tutte le politiche antiimmigrazioniste. Quelli di sinistra, io li ho sentiti con le mie orecchie, vogliono le tendopoli perché quella di Brescia, sì, a Milano non basta, sì, più. E la vabbè, secondo Luca da Verona, una visione del mondo, la Lussana ha ancora la birra in circolo della Burger Fest. Però, ma no, ci abbiamo detto ieri sera, si leggeva questa preghiera o la salamella in circolo. Ce la dici tra un attimo, guarda, devo dare il traffico, poi ti puoi riprendere, ti puoi rifare sulla questione di Roma, perché ti ha attaccato, c'hanno un sindaco che fa le immersioni sub mentre Roma va a catafascio tra poco, eh. La colazione dell'italiano: cappuccio, cornetto e traffico a volontà. Alino, era ora. Bella Sarunin. Sì, Milan, ti ha fatto 5 settimane di ferie? Ma lo sai, io per fare 5 settimane di ferie le devo fare in 5 anni, se mi va bene. Sandro, bentornato. Sugli immigrati che vengono lasciati morire nei cassoni dei camion, nelle stive delle navi e compagnia bella. E noi che dobbiamo correre a salvarli. Ma perché invece di salvarli non andiamo a prenderli? Visto che l'accoglienza è un obbligo, andiamo a coglierli direttamente dove loro si imbarcano, spendendo un sacco di quattrini per poi andare a morire su barconi che si ribaltano. From Costa Rica, Alessandro Milan, il boss dell'informazione. Ciao Lino, ti ricordi prima delle ferie? Invece da oggi è finita l'estate, devi lavorare! Va bene, ancora le mie 5 settimane di ferie, sempre meno di quelle dei magistrati che sono... Che polemica, Aurora Gentile. Sì, Aurora Gentile, ho detto. No, questa crasi, wow. Aurora Gentile è bellissimo. Aurora Gentile è bellissima. Adesso è chi una crasi blasfema. È una crasi. Sì, blasfema. C'è un che di veramente. No, c'è Veronica Gentili e Aurora Lussana. Allora, Roma. Sentite qua, certo che Gabrielli. Non è male questa, sento Marino tra un'immersione e l'altra, la battutina di Gabrielli c'ha un po' l'indole alla De Luca col battutismo, ti piace gli dirà, ma sentito Marino personaggetto, senti un po' Gabrielli, l'assenza del sindaco Marino ma noi è già da quel dì che facciamo riunioni, quindi lo senti il sindaco? Come no? tra un'immersione e l'altra, tra un'immersione e l'altra. Sapete qual è stata la reazione di Marino? Scrive il Corriere della Sera. Ha detto, allora Marino ha la tecnica del far finta di nulla, no? Va tutto benissimo. Ha detto, bene che ci sia Gabrielli, potrà solo constatare gli straordinari successi che abbiamo già conseguito. E io dico, ma Marino, ormai abbiamo scavalcato, purtroppo siamo arrivati al punto dell'indifendibilità da parte persino mia, anche tu, esatto, ho detto che l'hai difeso strenuamente. Ma io sono di Milano, non è che so com'è Roma, no. Però mi faceva un po' pena il fatto che sembrava, no, si rompe, cioè si rompe un semaforo, è colpa di Marino, ecco, forse. Infatti è stato così, è vero che è sfortunato, è vero che sì. Il funerale di Casa Monica è successo appena lui è partito per i Caraibi, il risultato appunto ha fatto sembrare che lui passi la vita ai Caraibi a farsi le immersioni, è tutto vero. Detto questo, purtroppo la sua inadeguatezza continua ad essere dimostrata di giorno in giorno, per quanto la correttezza e l'integrità siano assolutamente indiscutibili. Qui però, purtroppo Roma ha bisogno che qualcuno si dia una svegliata. Cioè, neanche tu lo difendi, No, inizio a stancarmi. Inizio a stancarmi. Attenzione, questa è una notizia. Veronica Gentili abbandona Ignazio Marino, adesso, salta giù dal carro. Non vuol dire che viene lasciato così in mezzo alla strada, però comincio a pensare davvero che se non si prende in mano la situazione qui sarà che sono reduce dalle letture delle intercettazioni Mafia Capitale, e vedendo quella che è la situazione che c'è qui dietro, tra cui appunto dicevo prima il cara di Mineo, è vero, io su questo sono d'accordo con Salvini, senti che altro scoop che ti do nella telefonata, incredibile, vero, uno dopo l'altro, che il cara di Mineo sia un ricettacolo di interessi, di appalti malcelati, tutto questo è estremamente vero. Però attenzione, c'è una domanda importante, può chiedere Milan, può chiedere alla signora del fatto, cioè Veronica Gentili, in quale spiaggia appena trascorso le vacanze? Ma non è che se te lo dice la puoi rincontrare, non è, ormai è passata. Ci vediamo lì l'anno prossimo, stessa spiaggia, stesso mare. Ero a Stromboli, nelle Eolie. A Stromboli. Però l'anno prossimo magari va da un'altra parte. Però sono abituale frequentatrice, quindi Insomma, Stromboli, questa... caro ascoltatore, Stromboli, segnare, Stromboli, isola delle Eolie, Stromboli, c'è un vulcano, insomma, segnare. Vabbè, Aurora, che ti devo dire? Qua Veronica Gentili, manco lei difende più Marino, quindi tu puoi, gioco facile, vai, di quello che romana, vuoi. Da romana può dire ciò che vuole, insomma, quindi conosce sicuramente meglio di tutti noi la capitale E quindi probabilmente sì, insomma, credo che anche una persona che, non so, odiava Roma profondamente, visceralmente, poteva augurare la capitale quanto è successo. Quindi, bene. No, e quindi che dobbiamo aggiungere? Tu daresti un po' di centinaio di euro per il giubileo, dai Aurora, rimettici. per il giubileo dell'antipapa? Chi è l'antipapa? Dai. Cosa vuol dire? Chi del Papa o dell'antipapa? No, perché sai che c'è il Papa e l'antipapa? Ma chi è il Papa e l'antipapa? Il Papa ovviamente è sempre Papa Ratzinger. Ah, poi c'è l'antipapa sarebbe. No, per Papa Ratzinger sì, certo. 100 euro li dai, sì, comodamente. 200? Tra l'altro so che l'obolo di San Pietro, insomma, incassava un po' di più ai tempi. Sì, però vanno per il giubileo di quello che tu chiami l'antipapa, cioè l'unico giubileo che c'è, non è che. No, appunto, per quello che ti chiedevo, insomma, se. No, beh, magari ci sarà un risveglio del cattolicesimo. Sì. No, non so, speriamo. Diciamo che vediamo. Scatta un po' di protettività nei confronti di Roma, quindi diciamo che anche il giubileo uno preferirebbe non vedere per l'ennesima volta cose che non funzionano, scempi, cose mal gestite. In questo senso vorrebbe non vedere, però li vedremo. Così ho come sospetto che li vedremo. Pessimismo lo vendono in Costa Rica? Ma non è pessimismo, dai, su. Scusami, da tu vai giù al giubileo? Ma non lo so. No, vado giù al giubileo a fare cosa? Penitenza magari, scusa, cosa si va a fare al giubileo? E non lo so, prendere credo la benedizione del Papa. Ma no, a chiedere le indulgenze. Appunto. certo. Non so perché avete questa idea di me che dovrei chiedere indulgenze. Ma sei cattolico? Sì, certo. Ah, vabbè, non è che noi ci devi fare l'atto di fede. Capito, no, ma cos'è un interrogatorio? Non ho capito. No, posso chiedere niente di calcio a Veronica Gentili. Devo subire questi interrogatori. Va bene. Di domande ferisce. Un attimo, capito? La mondazione è tolta e ci siamo noi. No, visto che ti sei alterato quando parlavo della preghiera dell'Alpino, ho detto magari non tollera la preghiera dell'Alpino. No. Quella sarebbe un'altra cosa su cui farci delle risate, Aurora. Non la conosco a memoria, ma abbiamo un Alpino in regia, abbiamo Peter Descalzo. scappare. Lui la reciterà, mi auguro. Esatto, non lo so. Dopo glielo chiederemo. Va bene, qua Aurora, intanto c'è da capire la ricetta, perché Enzo da Latina non molla, eccolo qua, è tornato. Non dimenticarti la ricetta, perché in conclusione che dobbiamo fare? Ma invitiamo Enzo da Latina alla festa della Lega di Cantù, dove ci saranno specialità valtellinesi. E sì. Ma Cantù non sta in Valtellina, però, non ho capito. No, ma è un omaggio alla Valtellina, alla Val Chiavenna, alla Val di Dente, insomma, nelle nostre terre. Stanno cercando di portare la cucina valtellinese. Sì, fanno questo meticciato, dove... fanno questo meticciato tra il Comasco e il Valtellina. Vede che anche loro mischiano. Che ci siano, esatto, i mitici culturali, le faccende immigratorie, così. Prendono la cucina valtellinese e fanno il meticciato con quella cantonina. E quindi tutte le specialità di questa valle meravigliosa. Dove scorre il fiume? Adda. Adda, e si mangia? Pizzoccheri e sciat. Bravo, Mile, no, io sotto... Ma no, ascolta, guarda, non hai capito, io ho fatto l'infanzia in Valtellina, quindi non mi puoi fregare su questo. Se vuoi ti do l'indirizzo privatamente dei migliori chat di tutta la Valtellina. Bravo. Che dobbiamo dire? Basta, qua ci fermiamo per il momento, vi ringrazio. La preghiera dell'alpino non l'hai letto. Mamma mia, sta preghiera dell'alpino. Ti metto un canto degli alpini. Comunque, va bene? La preghiera dell'alpino ha dato vita a un sacco di polemiche. Lo teniamo per la prossima. Lo so, teniamo per la prossima. Salvini anche lì si è indignato. Sì, ma infatti, se entri in un bar, non si parla d'altro che delle polemiche sulla preghiera dell'alpino. Vi lascio con un canto degli alpini. Ah no, è la preghiera dell'alpino. È la preghiera. Giura, Peter, è la preghiera dell'alpino cantata. Ascoltiamo in silenzio. Va bene, ciao. Alessandro Milan, che leggerà le notizie in una maniera che non potrete rifiutarvi. 24 mattino. E allora, cari ascoltatori, eccoci qui, leggerò le notizie per voi, va bene. 7:17 minuti, siamo pronti con la rassegna stampa. Siamo pronti anche a ricordarvi che alle 8:15, dalle 8:15 alle 9, parleremo di lavoro. Ebbene sì, di lavoro. Avremo con noi il grande Alberto Forchielli, nostro amico, che ha scritto un libro insieme a Stefano Carpigiani. Ha scritto questo libro che si intitola Trova lavoro subito. È proprio un manuale per aiutare a trovare lavoro, con un piccolo particolare: trovare lavoro all'estero. All'estero ci parlerà Alberto Forchielli, oltre ai suoi consueti, immagino, giudizi sferzanti su quella che è la situazione dell'Italia vista da un osservatorio mondiale. Dalle 8:15 alle 9, ma ricordate che andiamo in onda fino alle 9:30, anche oggi e per tutto il mese di settembre. Avremo ospite il sottosegretario all'interno Domenico Manzione e il sindaco di Palagonia in provincia di Catania per parlare di questa vicenda di cronaca brutale che ha coinvolto due coniugi uccisi brutalmente e il principale sospettato, un immigrato della Costa d'Avorio al centro di Mineo. Ne parleremo dalle 8:15 e ora andiamo a leggere i giornali. Insomma, martedì 1 settembre, eccoci qui con i titoli delle prime pagine. Il Sole 24 Ore si concentra, dopo la scoperta del maxi giacimento in Egitto da parte di Eni, sul tema energia. Energia, i big italiani crescono all'estero. Questo è il titolo di prima pagina, perché anche nel Green Power ha vinto una gara, diventa leader in Brasile proprio il giorno dopo la scoperta del maxi giacimento di Eni al largo delle coste dell'Egitto. E poi il tema immigrazione, ancora prepotentemente in prima pagina su tutti i quotidiani, per il Corriere della Sera 20.000 posti per i migranti, questo è il titolo di prima pagina, cioè ciò che il Viminale, il Ministero dell'Interno, sta cercando in hotel e campeggi, 20.000 posti nuovi. Repubblica, l'Unione Europea, basta muri, Merkel aiuti all'Italia, nuovo diritto d'asilo. Per la stampa, Merkel, migranti, l'Italia va aiutata. Così il Messaggero, missione antiscafisti si accelera al vertice europeo del 14, si punta ad aggirare l'impasse libica con operazioni in acque internazionali. L'Unione Europea basta muri è anche il titolo di Avvenire, mentre su questo delitto atroce a Palagonia si concentrano alcuni giornali. Il Giorno, uccisi dallo Stato, questa è l'accusa della figlia delle vittime. Il Giornale, il naufragio del buonismo, emergenza clandestini, mentre Libero, guardate qui che titolo molto duro, il governo complice degli immigrati assassini. Questo è il titolo di prima pagina di Libero. Il Fatto Quotidiano invece sulla politica: Napolitano torna al Quirinale, poi però esce. L'ex capo dello Stato, secondo il Fatto Quotidiano, è colui che è dietro all'insistenza sulle riforme e spinge anche con Mattarella, cioè il nuovo inquilino del Quirinale, per le riforme di Renzi. Però voglio partire dalla lettura di alcuni articoli sulla scuola, perché sono giorni importanti, come abbiamo sentito anche nel giornale radio, anzi una notte importante, quella per molti insegnanti, quella che sta per arrivare. Parte la lotteria delle cattedre, in un click la sorte dei prof precari. Questo è il titolo del Giorno, pagina 6. Veronica Passeri racconta: stanotte all'una gli oltre 71.000 insegnanti precari che sperano di conquistare una delle circa 16.000 cattedre disponibili dovranno accendere il computer per conoscere la propria sorte. Se avranno il posto, e cosa di non minor conto, sapranno dove. Si potrà scoprire com'è andata sul sito del Ministero dell'Istruzione tramite il sistema informativo Istanze Online. A decidere tutto sarà un algoritmo, tenendo conto del punteggio del candidato e della sua preferenza espressa nella domanda di assunzione. Un docente quindi potrà essere mandato in qualunque scuola sul territorio nazionale, a prescindere dalla provincia di iscrizione in graduatoria. Per decidere ci sono appena 10 giorni. Entro mezzanotte dell'11 settembre il posto dovrà essere accettato perché, come si ribadisce anche sul sito del Ministero, chi rinuncia alla nomina automaticamente è escluso dalle fasi successive ed è cancellato da tutte le graduatorie in cui è iscritto. Dunque, stanotte all'una parte questa lotteria delle cattedre, come definita sul Giorno. Tra l'altro, ieri c'è stata una sentenza che riguarda proprio i professori, una sentenza del Consiglio di Stato, come raccontano tutti i giornali. Il Corriere della Sera a pagina 21, il giudice riapre le graduatorie a 1900 precari. Si tratta di diplomati alla scuola magistrale, abilitati all'insegnamento, ma fuori dalle graduatorie a esaurimento, le cosiddette GAE. Per la buona scuola non potevano aspirare all'assunzione se non dopo aver partecipato a un concorso, ma loro hanno fatto ricorso e il Consiglio di Stato, in via cautelare, ha disposto che anche loro dovranno essere inseriti nelle GAE e quindi potrebbero un domani essere assunti anche senza concorso pubblico. È una sentenza che riguarda 1893 insegnanti precari. Ed è un'ordinanza, per la verità, del giudice, che per ora è solo cautelativa. La sentenza che entrerà nel merito è prevista in dicembre. Dunque, solo a dicembre questi quasi 1900 precari sapranno se entreranno nel GAE o resteranno nelle graduatorie di seconda fascia. Però certo, questo ha complicato un po' le cose proprio alla vigilia di questa notte di lotteria. C'è un'intervista al ministro dell'istruzione Stefania Giannini proprio sul Corriere della Sera, che intanto contesta l'accusa di volere deportare i precari, che parlano di deportazioni, cioè con queste assegnazioni di cattedre senza vincolo di provincia. Risponde il ministro all'istruzione: voglio stigmatizzare questa parola che riporta a ben altro. Usiamo quella giusta, ovvero assunzione a tempo indeterminato a un pubblico impiego. Può capitare di spostarsi, ma la contropartita è la stabilità del posto. E su 102.000 assunzioni parliamo solo del 10, massimo 15% del totale, cioè quello che è sempre stato anche negli anni passati. Solo che prima erano supplenti, mentre ora avranno il posto fisso e con la mobilità dopo 3 anni potranno spostarsi. Capisco le preoccupazioni, soprattutto per quanto riguarda donne che hanno una famiglia, ma sinceramente non mi sento di martirizzare questa situazione, e parlare di deportazione è inaccettabile. Questo è il ministro Giannini, e poi parla anche di altri temi, parla dei sindacati, basta con il bandierone della contestazione, ora collaborino con noi con la mano tesa. E altre ovviamente novità sulla scuola in questa intervista al Corriere della Sera, pagina 21. Però di novità della scuola ce n'è una importante che è messa in pagina da Repubblica, pagina 22, ed è questa raccontata da Tiziana De Giorgio. Nasce a Milano il primo liceo pubblico, primo liceo pubblico, dove è il classico liceo classico Tito Livio, dove per due anni, da questo punto, dopo che per due anni gli insegnanti seguiranno corsi di inglese con docenti madrelingua, si insegneranno tutte le materie sia in lingua italiana sia in lingua inglese. È un po' quello che ha fatto, per quel che riguarda l'università, anche il Politecnico di Milano. Qui il futuro è bilingue. Ecco che nasce il primo liceo pubblico dove si studia in inglese. Tiziana De Giorgio, a pagina 22, racconta: impareranno a tradurre Seneca e Aristotele come gli altri liceali, dovranno conoscere i versi di Dante e di Montale, la storia del ventennio, la pittura di Leonardo. La differenza è che gli studenti faranno lezione in inglese. È la rivoluzione scolastica del Tito Livio di Milano, primo liceo classico statale che diventa bilingue, dove tutte le materie, dal latino alla matematica, vengono spiegate in lingua anglofona. Spiega la preside che anche il reperimento di insegnanti in grado di padroneggiare l'inglese, che è stato il punto più importante, più difficile, è superato, perché gli insegnanti frequenteranno ogni settimana corsi intensivi di perfezionamento e conversazione e scrittura con insegnanti madrelingua. Insomma, un'iniziativa che mi pare assolutamente positiva, visto che si capisce che l'inglese è il futuro. Si lega molto anche al tema che affronteremo dopo, quello del trovare lavoro all'estero, la lingua, l'inglese soprattutto. Beh, invece appartiene al mondo della scuola questa notizia, ma che ti ha combinato, come racconta Gian Antonio Stella sul Corriere della Sera, l'ultima novità di Vladimiro Crisafulli, ricordate, ex senatore del PD, considerato per alcuni impresentabile, poi si è candidato sindaco a Enna, poi non è stato eletto con tutte le polemiche. Ma Vladimiro Crisafulli che ha fatto? Sapete che in Italia c'è il numero chiuso per entrare a medicina, alle università di medicina, e allora lui ha portato a Enna una succursale, una sede dell'Ateneo del Danubio rumeno in medicina. Cioè ha fatto aprire un'università rumena, o una costola dell'università rumena di medicina in Sicilia. Se in Sicilia spunta l'università rumena. Gian Antonio Stella in prima pagina del Corriere della Sera: furbizie, Mirello Crisafulli vorrebbe attivare a Enna una sede distaccata dell'Ateneo del Danubio Meridionale con la facoltà di medicina. Insomma, si tratterebbe di una creatura del Mamma Santissima di Enna, Vladimiro Crisafulli. Ma come gli è venuto in mente, scrive Gian Antonio Stella, di mettere su una sede distaccata della Universitatea Dunarea degli Os di Galati? Che volete? Sono fantasioso, ha risposto ad Antonio Fraschilla di Repubblica, e ha spiegato: attiveremo due corsi di laurea, quello in medicina e chirurgia, quello in professioni sanitarie. E i locali quali sono? Li metterà a disposizione l'ospedale di Enna. E la lingua? Faremo un corso intensivo di 10 settimane di rumeno. 10 settimane di rumeno? Ma che è? In 10 settimane imparare il rumeno? Vabbè, anche il Fatto Quotidiano si concentra su questa vicenda abbastanza surreale. Il magnifico Crisafulli inventa l'Ateneo rumeno. A Enna il corso di laurea è in accordo con la fondazione di cui è l'amministratore delegato emerito. Vladimiro Crisafulli racconta il Fatto. Nelle vesti di Ippocrate si inventa questa nuova idea, quella di creare una succursale dell'università rumena di medicina. E vabbè, sono cose così. Ma eccoci qui, l'articolo che ci fa più incazzare di questa giornata, l'articolo che ci fa tenere le mani ben strette sul volante, mani sul volante se siete alla guida, e come al solito caffè bollenti da appoggiare in questo momento, perché vi ricordate certamente quello che hanno combinato i tifosi del Feyenoord, squadra olandese, quando hanno devastato parti di Roma, distruggendo anche la barcaccia del Bernini, quando sono venuti qua per una partita di Coppa Roma-Feyenoord. Come sarà finita, secondo voi? Eccolo qui, lo racconta il giornale, con Jacopo Granzotto. Devastarono la barcaccia, gli hooligans la fanno franca. Il giudice olandese proscioglie tutti gli ultra del Feyenoord perché dice non ci sono filmati o testimonianze che li inchiodano. Dopo le violente scorribande a Roma, nessun colpevole per i danneggiamenti alla barcaccia di Piazza di Spagna. Finisce così con un incredibile nulla di fatto, almeno in relazione alla famosa fontana appena restaurata. Il procedimento giudiziario, tutto archiviato nei confronti di questa orda olandese che saccheggiò il centro storico romano prima e dopo l'incontro Roma-Feyenoord. Era il 19 febbraio scorso, nessun colpevole. Ebbene sì, sta a vedere che l'hai rotta tu, Peter Mescapè, questa barcaccia, mannaggia, confessa farabutto. Sono cose che capitano. Ma che razza di atteggiamento è questo? Cose che capitano. Capitano soltanto perché questo paese è pieno di gente che quando queste cose capitano dice sono cose che capitano. Alessandro Milan, la polenta e rosei dell'informazione. Eccolo lì. Oh, vi avevo chiesto di mandarci tutti gli stacchetti e le siglette nei dialetti, li vogliamo uno per ogni regione. Alcune sono arrivate, altri no. Mandateci alla nostra segreteria telefonica 02 4652 4492. Dai, avanti, coraggio, lo voglio dall'Abruzzo alle Marche, alla Sicilia, al Trentino, alla Sardegna, tutte. Allora, qui se sfogliamo i giornali, il tema immigrazione è il tema che ogni giorno è sempre più presente, anche perché l'Europa se ne fa carico, forse finalmente, vertice straordinario il 14 settembre, Unione Europea. Si fanno vertici, poi attendiamo anche le decisioni. Comunque, scrive Repubblica, la Commissione Europea prepara il nuovo diritto d'asilo. Sapete che anche Renzi ha detto ci vuole un diritto d'asilo europeo. Alberto D'Argenio su Repubblica, pagina 2, ora che il dramma migranti mette in difficoltà e scuote le coscienze di quasi tutti i governi europei, Bruxelles prepara il rilancio per imbrigliare la crisi. Data cruciale l'8 settembre, giorno nel quale a sorpresa la Commissione europea approverà un robusto pacchetto con nuove misure poi da sottoporre ai governi. Con queste misure si chiederà alle capitali di accogliere un numero di migranti sbarcati in Italia e Grecia superiore ai 40.000 chiesti a maggio. Dunque la Commissione europea è pronta a chiedere uno sforzo delle capitali europee per aiutare l'Italia. Quella frase che anche ieri Angela Merkel ha detto, aiutiamo l'Italia. Anche perché qui in Italia ne arrivano sempre più, come è naturale, essendo noi l'approdo geografico di tutte le rotte del Mediterraneo. E allora Fiorenza Sarzanini racconta, pagina 3 del Corriere della Sera, che c'è un nuovo piano per ottenere 20.000 nuovi posti. Servono 20.000 nuovi alloggi. E le quote sono allo studio del Ministero dell'Interno. In testa sono le regioni più popolose, cioè le regioni che dovrebbero accogliere migranti. Più di tutte sarebbero, secondo il Corriere, Sicilia, Lombardia, Lazio. Le cifre d'altronde sono da record, scrive Sarzanini. 686 sbarchi dall'inizio dell'anno. Fino a ieri hanno portato in Italia 116.127 persone. Attualmente ci sono 94.347 migranti accolti nei centri governativi e nelle strutture reperite grazie a prefetture e enti locali. Ma il sistema è saturo, i posti sono finiti e dentro qualche giorno partirà dal Viminale una nuova circolare per reperire almeno 20.000 nuovi alloggi. La situazione, come vedete, è... Ormai questa parola emergenza a me fa sorridere, perché sono 20 anni che di tanto in tanto, con flussi, con picchi e poi periodi invece più, più tranquilli, ma è 20 anni ormai che la situazione è così. Certo, adesso siamo in una situazione di picco di emergenza, però servono 20.000 nuovi posti con le annesse polemiche che ci saranno. Le polemiche sono anche scoppiate dopo il terribile duplice omicidio di Palagonia in provincia di Catania, con una coppia di coniugi settantenni che sono stati uccisi brutalmente, e il maggiore sospettato è questo ragazzo ivoriano di 18 anni, Mamadou Camara, fermato e accusato dei due omicidi. Per la verità, il procuratore di Caltagirone, Giuseppe Verzera, dice: senza dubbio c'erano almeno altre due o tre persone insieme a Mamadou Camara l'altra notte, che l'hanno sicuramente aiutato a compiere questo duplice delitto. Tra l'altro, il racconto di Fabrizio Caccia sul Corriere della Sera, pagina 22, è il racconto di una persona che o è assolutamente dissociata o è assolutamente sicura di sé nel dirsi innocente, perché non fa assolutamente, non mostra assolutamente nessun tipo di emozione. Eccolo qui, Fabrizio Caccia. Perché mi tenete qui? Perché non mi lasciate andare a casa? Così, calmo, tranquillo, tutto sommato in un buon francese, continuava a ripetere domenica Mamadou Camara. Pure quando ormai se ne han fatte le 11 di sera nella stanzetta del commissariato di Caltagirone, il capo della mobile di Catania, dopo 13 lunghissime ore di faccia a faccia, stava ancora lì a domandarsi come potesse questo 18enne ivoriano restare impassibile davanti all'evidenza. Gli aveva appena detto il poliziotto che di aver scoperto nella memoria del suo cellulare una foto di lui inequivocabile, di Mamadou vestito con pantaloni neri, una cintura di pelle bianca con la scritta Gaudì sulla fibbia. E sono quel paio di pantaloni neri legati dalla stessa cintura bianca ritrovati dentro il borsone che Mamadou aveva con sé domenica al CARA di Mineo, che aveva anche il cellulare, due cellulari, il PC portatile, la videocamera, alcune macchine fotografiche, la catenina d'oro delle vittime. Eppure lui niente, una statua di sale, ve l'ho detto, non c'entro nulla. Tutta quella roba l'ho trovata in un cassonetto sul ciglio della strada. Ha mentito sugli orari, ha mentito sugli orari di uscita dal CARA di Mineo. Eppure, dice il Corriere, assolutamente impassibile di fronte alle accuse. Come detto, Libero titola in maniera molto brutale in prima pagina: il governo complice degli immigrati assassini. Una frase molto dura del quotidiano diretto da Maurizio Belpietro, che poi firma l'editoriale dal titolo «Noi stiamo con Rosita». Chi è Rosita? Rosita Solano è una delle due figlie delle vittime, che ha chiesto al premier Renzi di dare una risposta, perché, l'abbiamo sentita anche prima in audio, il governo si ostina a far arrivare persone come queste che poi hanno ucciso i miei genitori. E intervistata da Repubblica, pagina 7, dice: questa è casa nostra e nella propria casa ci si dovrebbe sentire sicuri, invece quella bestia è arrivato qui, ha ucciso i miei genitori con ferocia, per poche centinaia di euro, un computer, un cellulare, non li ha risparmiati. Non è stato un essere umano, è anche colpa dello Stato, di Renzi e di Alfano, sono responsabili della fine dei miei genitori. Queste le accuse molto forti. E alla domanda: ma non pensa che con queste parole lei possa favorire quei politici che cavalcano l'emergenza immigrati per cercare voti? Risponde la figlia delle vittime: che un politico ne approfitti per il proprio tornaconto a me non interessa. Le polemiche tra politici per me sono solo parole, io voglio fatti. Gli immigrati devono essere schedati e i controlli devono essere serrati. Mio padre e mia madre non torneranno più, se c'è giustizia che ce lo dimostrino. Queste le parole molto dure. Per la verità, La Stampa racconta che ora il Viminale, cioè il Ministero dell'Interno, prepara una stretta restrizioni per i più pericolosi, non aggiunge altro che nuove polemiche il fatto che questo centro di Mineo, secondo Luca Odeven, che è stato arrestato nell'ambito delle indagini di Mafia Capitale ed è stato interrogato su come è stato assegnato l'appalto di questo centro di Mineo, dice Odeven, come racconta il Corriere della Sera, come racconta anche il Messaggero nel suo verbale di interrogatorio, che la gara per l'assegnazione di questo centro era pilotata, e cioè si sapeva già che doveva vincere una cooperativa, il consorzio Sisifo, che poi ha vinto. Questo certo non aiuta a contribuire a svelenire il clima. Ebbene sì, è il momento della capolista, eh? Sempre Mauro Meazza, sempre in testa alla classifica, con tantissimi acquisti peraltro, mamma mia. Mauro Meazza, buongiorno, buongiorno, il nostro interista buongiorno. Preferito, come stai? Bene, grazie, tu stai bene? Sì, noi abbiamo comprato tantissimi giocatori forti. Tantissimi, ho potuto leggere li compreremo giornali, oggi, sì. Li compreremo oggi. Ma volevo però ringraziarti perché mi hai fatto tutto il catalogo del codice penale per prima di darmi la linea. Addirittura, no, ma la responsabilità penale è personale, tu non c'entri niente. Hai messo un po' di tutto, diciamo, no? Tu non c'entri nulla. E così via. No, mi piace essere presentato in questo modo, quindi riallerterò il mio avvocato a questo punto e terremo da parte queste registrazioni. Grazie del saluto alla capolista, anche a nome delle altre capoliste, peraltro, perché come sai ci sono, siamo in comproprietà con altre importanti squadre. Ti volevo dire che questa è una settimana importantina perché venerdì ci aspettiamo che si completino i decreti del Jobs Act. Non so se Angelino si scoccia, si può dire anche riforma del lavoro, però sì, il Jobs Act, abbiamo ancora 4 decreti da varare. Se leggi sono 24 ore di oggi, scoprirai appunto che si cerca la quadra, si cerca la soluzione per quanto riguarda specialmente il controllo dei lavoratori, perché sai che questa è una materia delicatina e lo spieghiamo oggi su Sole 24 Ore. E poi ti voglio dire che da domani è in vigore una nuova disposizione che limita il raddoppio dei termini nei controlli fiscali. Hai capito qualcosa? Non è importante che tu capisca, caro Milan, neanche che io capisca, devono capire specialmente i professionisti del fisco. È una novità molto molto importante, la spieghiamo infatti nelle prime pagine del Sole 24 Ore, non nelle pagine di norme e tributi che tu sicuramente stavi andando a sfogliare per cercare di rimediare alla tua impreparazione. Ti voglio anche dire invece che per l'entrata in vigore delle nuove norme sull'abuso del diritto, stai attento, stai prendendo appunti, ecco, dovrai aspettare fino al 1° di ottobre. Sempre ne parliamo nella stessa pagina, Sole 24 Ore. Hai preso appunti? Ho preso appunti. Sulle pagine di norme e tributi, perché invece nelle pagine di norme e tributi, caro mio, ti parliamo tra le altre cose di bilanci. Perché stanno per cambiare molte cose. C'è una rivoluzione contabile in arrivo dal 2016, bisogna prepararsi per tempo. Una volta c'era un libro, La rivoluzione, sta per arrivare la rivoluzione, non ho niente da mettermi. Tu hai qualcosa da metterti per la rivoluzione dei bilanci? Non lo so. Vediamo, prova a guardare il tuo guardaroba, intanto guarda oggi la prima pagina dei tributi. Ti consiglio anche di meditare sulla pagina dei consumi, i consumi delle famiglie vanno malino rispetto a maggio, ma meglio rispetto a un anno fa. Insomma, le cose non sembrano così ben intonate neanche in questo rientro, speriamo che migliorino. E infine, caro Alessandro, è martedì e quindi... Il condominio! Oh, vedi che non ti sei scordato, anche se sei stato in Costa Rica. Le buone abitudini, il condominio, caro mio, dove tra l'altro oggi parliamo di catasto energetico e anche dei condomini che non pagano i morosi, chi si deve accollare le spese legali. Tu paghi le spese di condominio? Le pago. Regolarmente. Non è che poi dobbiamo fare causa. No. Allora leggi come sempre, come ogni martedì, le pagine di condominio. E tutto ciò premesso dalla capolista, un caloroso traffico! Alessandro Mila, il gattino attaccato ai maroni dell'informazione. Come il nostro Forchielli vede la Grecia, il gattino attaccato ai maroni. Secondo Forchielli però la Grecia sarebbe questo per noi europei, ma ne parleremo tra l'altro con Forchielli, parleremo di lavoro, sarà ospite con noi dalle 8:15 alle 9, ha scritto un libro, trova lavoro subito, però all'estero, ci spiegherà come si trova lavoro subito all'estero. Allora, ci sono indiscrezioni su Repubblica, a firma Valentina Conte, di che cosa? Della legge di stabilità. Legge di stabilità che a ottobre ci sarà. Ed eccolo qui, si allunga la lista degli annunci. Che cosa prevede Repubblica? Ci sarà un intervento per gli incapienti, che appare scontato, sono esclusi dagli 80 euro scippati dal tesoretto di primavera poi destinato alle pensioni, non saranno dimenticati, così dice Renzi. Sulle tasse ne abbiamo detto tante volte, le TASI sulle prime abitazioni sarà abolita per tutti, ha ripetuto Renzi, ma ci sarà anche, come ci ha confermato ieri il responsabile economico del PD Taddei, sarà abolita l'IMU agricola e quella sugli impianti imbullonati per un costo totale di 4,5 miliardi. Ma insomma, su Repubblica c'è tutto, anche per quel che riguarda le pensioni, definita la partita più delicata, ci sarà sicuramente maggiore flessibilità in uscita, lo ripetono in molti, dal Premier al Ministro Poletti. Il nodo è come e quanto tutto questo costi. Indiscrezioni sulla legge di stabilità le trovate su Repubblica, mentre invece indiscrezioni in prima pagina di Libero su un'altra legge, è quella sulle unioni civili, che Renzi ha ribadito si farà. E si farà certamente entro la fine dell'anno. Franco Bechis però scrive su Libero che c'è un piccolo problema che sarebbe stato sollevato dai tecnici del Senato, che hanno contestato le stime del governo perché tra sgravi fiscali, la reversibilità della pensione anche per le future eventuali coppie dello stesso sesso, tutto ciò aggraverebbe una spesa di centinaia di milioni di euro l'anno, secondo le stime, una spesa che sarebbe poco sostenibile dallo Stato. Tutto dipende ovviamente da quante coppie decideranno eventualmente, quando ci sarà la possibilità di unioni civili tra persone dello stesso sesso, di mettersi a regime. Secondo la Ragioneria Generale dello Stato, a regime saranno non più di 67.000. Da questo numero sarebbe raggiunto in 10 anni vengono tutti i costi possibili della legge, soprattutto quello della reversibilità della pensione, che nel testo approvato da Matteo Renzi e dal suo governo c'è per le unioni civili. E dunque, secondo Libero, le unioni gay costano troppo, a rischio il bilancio dello Stato. Questa almeno è una stima che viene fatta dai tecnici del Senato, che trova spazio su Libero. A proposito di tasse, invece, sempre rimango su Libero, non è una tassa, ma è stata percepita da alcuni come tale. Che succede con tanto di polemica la festa dell'Unità di Modena? E succede che a Modena, alla festa dell'Unità, hanno messo un ticket di 3 euro per scendere in pista e ballare l'issio. Ma come? Cioè, la festa dell'Unità bisogna pagare 3 euro per ballare l'issio? C'è anche un'intervista a Raul Casadei, incredulo, che dice: ma parliamo della balera dentro al festival? Siamo sicuri? Sì, sì, si paga per ballare nella pista dentro la festa dell'Unità, ma se è così, se li fanno pagare non ci andrà più nessuno. Lì ci vanno soprattutto gli anziani, non sono mai stati abituati a pagare per fare due giri di valzer, è lissio, è liscio oppure il valzer. Le piste resteranno vuote, l'unico motivo per far pagare è che ci sia veramente un grande nome sul palco. Vabbè, io non vado più comunque alle feste dell'Unità da tanto tempo, e nemmeno l'orchestra di mio figlio. Poi c'è questa polemica di Raul Casadei che dice: li chiamano ormai solo orchestrine che fanno cover. Insomma, la polemica del PD che mette la tassa anche per ballare il liscio, questo è a pagina 11 di Libero. Che dire, trovate ancora molto di Roma. Roma che, con il prefetto Gabrielli, che ha detto: c'è la possibilità per me di sciogliere il comune di Roma, il sindaco comunque rimane Marino, io non resterò a fare il notaio. Ma lei ha sentito Marino? Sì, l'ho sentito tra un'immersione e l'altra. Insomma, diciamo che c'è questa polemica e anche qualche battuta caustica del prefetto Gabrielli. La situazione lì si chiarirà un po' di più quando Marino tornerà dalle ferie, credo domani. Intanto, secondo Ernesto Menicucci sul Corriere della Sera, Marino continua la linea del fare finta di nulla, visto che Marino continua a dire ai suoi è tutto a posto. E sentite, udite, udite bene che cosa ha detto Marino, lo dico anche in diretta su Periscope, perché siamo in diretta su Periscope da questo momento. Sentite che dice Marino: benvenga il prefetto Gabrielli, la sua ricognizione potrà solo dimostrare gli straordinari risultati che abbiamo già raggiunto. Cioè, proprio fa finta di nulla, come se fosse tutto a posto. Siamo in chiusura? Sì, c'è tempo solo per raccontare che cosa? Il premio La Carta Costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali, a mio insindacabile giudizio. Oggi vince Il Giornale con il grande Oscar Grazioli, che è un veterinario, uno studioso degli animali, molto amante degli animali, racconta anche degli articoli interessanti, ma questo mi ha fatto molto ridere, perché si parla proprio delle risate degli animali. Gli animali che ridono, lo dice anche la scienza. Gli animali sono umoristi. Ci sono, se voi poteste vederlo su Periscope, si può vedere l'asino che non raglia ma ride, lo scimpanzé che fa gli scherzi, il cane che ride. Pensate che anche i ratti, i topi, i ratti sono capaci di spiritosaggini e ridono più di noi. I ratti, i topi ridono più di noi. Ma chi se ne frega? Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan. Ciao Milan, che te porti lo piglia fuoco. Se fossi tua moglie, quante botte ti darei? Quando parli, sembri laureato in tuttologia, fai tutto tu. Allora, sono le 8:18 minuti in punto. Ben ritrovati da Alessandro Milan, cari ascoltatori. Oggi vi parleremo di lavoro. Di lavoro. Vi daremo i consigli per trovare lavoro. Ebbene sì, perché esce proprio oggi in libreria, nelle librerie italiane, anche in formato anche digitale, lo potete trovare, un libro, un manuale dedicato proprio a questo. Il titolo è già promettente, è Trova lavoro subito. È edito da Sperling & Kupfer. E come sapete, il lavoro in qualsiasi autunno, ma non solo in autunno, è il tema più caldo, in Italia lo è da sempre. Siamo o non siamo il paese con il tasso di disoccupazione giovanile oltre il 44%? È questo, no, il paese delle riforme del lavoro perenni, dei dibattiti sul Jobs Act: ha prodotto benefici, non ha prodotto benefici, li produrrà come tutte le riforme tra 3 anni, secondo chi ha scritto questa riforma, quindi ci vuole un po' di pazienza. Insomma, parleremo di questo, trovare lavoro subito, con un piccolissimo particolare: questo manuale è rivolto a tutti coloro che vogliono trovare lavoro subito, ma all'estero. All'estero. Ebbene sì, questo libro, che è stato scritto insieme a Stefano Carpigiani da un grande nostro amico da sempre, il presidente dell'Osservatorio Asia, il partner fondatore di Mandarin Capital Partners, imprenditore nonché nostro commentatore, dalla lingua così un po' graffiante se non biforcuta sull'attualità italiana, il nostro grandissimo Alberto Forchielli. Ciao Albertone, come stai? Ciao Alino, bene bene. Dove ti trovi? Sono a Pechino. Ah, Pechino, vedi che i cinesi ti hanno riaccolto, allora ti vogliono ancora bene. Sì, ti vogliono. È buono. Ma sì. Ti voglio. Vado anche alla parata, vado alla parata militare. È vero, il 3 settembre. Il 3 settembre. Sì, cioè, poi vado in televisione. Fanno la parata militare, è vero, ma c'è grande attesa, cioè, sembra che è vista come una grande sfida anche al mondo, no, questa parata militare. Sì, sono lì, quei garofani rossi, e via. e via. Allora, caro Alberto, come detto, parleremo di questo libro, però ne parleremo più avanti. Io non posso non approfittare, perché tu hai sempre questo sguardo così urticante sulla nostra realtà, e allora ti devo fare qualche domanda sull'attualità e l'Italia, come la vedi tu dal tuo osservatorio particolare. Ma intanto, scusa, mi viene da dire, ma già invitare ad andare via proprio nel momento in cui Renzi, anche l'altro giorno al Corriere della Sera, ha detto l'Italia va, l'Italia in ripresa, l'Italia ce la fa. Tu non ci credi a questo? Alino, Quella in atto è una... mi sta più di ripresa per il culo. No, beh, adesso. No, dai. Tu lo sai, c'è una gag non mia, però mi tocca dirlo. Se ti prende fisicamente è chimica. Se ti prende al cuore è amore. Se ti prende per il culo è Renzi. Ah, ecco, ecco. Cioè, ragazzi, per... abbiamo fatto 0.02, che è un statisticamente è un nulla, in un momento in cui abbiamo euro debole, tassi di interesse al minimo, quasi a zero, e petrolio sotto i $50. Insomma, questa ripresa stimata della disoccupazione. Questa ripresa ormai stimata dello 0,7 ti sembra un po' poca roba per dire che ma c'è. Ma no, beh, ma una roba che non fa niente. Cioè, ovviamente la disoccupazione non si è mossa, è venuto fuori il politico numero taroccati. Ormai Renzi è come la pecora Dolly. Sì, è un clone di Berlusconi. Sta dicendo le stesse cose, pur di raccattare un po' di consensi, ma. La ripresa dell'Italia è come la corsa ai sacchi. Ogni lavoratore ha sulla coppa un pensionato e mezzo. Non può avvenire. È troppo carico, capito? Sì, cioè ogni lavoratore ha una sulla gobba, diciamo così, un pensionato e mezzo. Sulla coppa. No, adesso preserva la bolognesità. La coppa. E mezzo, ma voi che andiamo, capito? Con tutti i debiti, capito? Ormai anche l'industria, le attività industriali sono stanche, è una macchina che non ha più cavalli, capito? Ma questo anche, guarda, se Renzi ha detto, certo, come ho detto ieri, è un atto di fede da fare, toglieremo la TASI sulla prima casa, l'IMU agricola, la tassa sugli imbullonati per le aziende, insomma, queste cose qui. Dovremmo fare un'altra manovra. Capito? Perché naturalmente non abbiamo i soldi per pagare tutte queste vane promesse, e secondo me a forza di manovrare andremo a tamponare, lo dico io. Ah, dici, manovra che sì, ti manovra, si tampona. Come manovra che ti manovra, sì. Vabbè, quindi insomma la vedi una ripresa, sì, l'hai detto tu, una ripresa per il culo, non una ripresa fredda. Che dobbiamo fare? Dobbiamo guardare. Sai che ieri avevo qui Salvini e Salvini ha detto questa cosa il 6, 7, 8 novembre, promuove quello che ha fatto un po' marcia indietro, è un bloccare l'Italia. In realtà ha detto no, faremo azioni eclatanti sull'Agenzia delle Entrate, non ce le ha volute anticipare ovviamente. Berlusconi già non è molto contento, dice io posso fare qualcosa con Salvini politicamente ma bloccare l'Italia no. Ti sembra una soluzione quella di bloccare l'Italia? Ma Salvini si rende conto che bloccare l'Italia è come sparare su un uomo che caga? Cioè, è già bloccata di per sé, cosa vuol fare? Così? L'immagine Alberto, tu capisci. Cioè, voglio dire, per paralizzare l'Italia bastano quelle 4-5 fiale di Botox che ha fatto la Santa Che. È già bella che è paralizzata, non bisogna mica fare granché. E tu dici non porta granché, non è la soluzione. Niente. Cioè, è paralizzata di per sé, cosa vuoi fare? Poi ormai siamo abituati a sti scioperi. Cosa fa come la CTL che manda i pensionati col fischietto in tita premio? Non so, io capito. Insomma, non ti piace questo. Che senso ha? Ma ovvio che no. Ma mi sembra che il senso non lo veda neanche molto Berlusconi, insomma, che è l'alleato più politicamente più vicino. Sì, la novità sarebbe dire lavoriamo tutti un sabato. Cioè, lavoriamo tutti un fine settimana. Quella sarebbe la novità per l'Italia. Lavorare di più. Quella sarebbe la novità. Niente fine settimana, si lavora il fine settimana, quella sarebbe la verità. Altro che fare le immobilizzazioni, ma non si muove niente. Cioè più produttività, più lavoro, darsi da fare un po' di più. Che dobbiamo fare? Abbiamo qualche manovra allora sull'Europa? Cioè, non so, possiamo chiamare l'Europa, qualcuno, se ci risponde qualcuno, e dire non so, aiutateci, nel senso anche con questa rigidità tedesca, con questa austerità, dateci di conti un po' più flessibili in modo che possiamo farcela. Quella potrebbe essere la soluzione. No, guarda, Alino. Questa storia dei conti flessibili, ci sono due fallacies in questa roba. quando si dice conti flessibili vuol dire dateci la possibilità di aumentare il deficit. Noi se aumentiamo il deficit, sì, creiamo ulteriori debiti che non siamo assolutamente in condizione di pagare. Mm. Perché solo se quest'anno l'economia cresce all'1, il peso del debito sul PIL cresce di 2 punti. Sì. Vogliamo sparare ancora di più? Ossia, ormai sono 40 anni che facciamo debiti. Sì, ormai sta formula di fare il debito non funziona, capito? Quindi, cioè, non ci crede più nessuno. Cioè, voglio dire, bisogna cambiare il paradigma. Cioè, bisogna avere il coraggio di dire dobbiamo lavorare di più e meglio. Questa è una roba vecchia, quella di continuare a fare i debiti. La seconda palla, sì, adesso è l'idea che tirando i soldi dalla Banca Centrale Europea, abbassando i tassi di interesse, buttando giù i soldi dall'elicottero come se fossero i petali di Casa Monica. No, ragazzi, il problema è si abbassano i tassi di interesse, però non si modifica l'andamento dell'economia, si modifica la produttività. Siamo tutti fissati con queste mosse monetarie, ma ci dimentichiamo i basic della vita, che sono lavorare di più, meglio, più in fretta, con più attenzione, con più... Questi sono i valori fondamentali che a noi sfuggono completamente. Ma guarda, basterebbe che in Italia... Sì. La gente lavorasse un po' meglio, si risolverebbe anche il problema della burocrazia. Per forza, capito? Vai negli uffici pubblici dove non fanno un cazzo, per forza la burocrazia è sostenibile. Tu dici un po' meglio, un po' di più. No, ma dai anche in qualche modo una risposta, perché sai che questa è la critica che spesso arriva quando tu sei qua a commentare. Per esempio la fa Elena via SMS a dirci, beh vabbè, ma si può criticare, ma quali sono le proposte di Alberto Forchielli? Beh, una è questa, cioè lavorare di più, lavorare con maggiore produttività, non aspettare che cadano, com'è la storia, i soldi come i petali di Casa Monica. Ma bisogna ragazzi, lavorare di più, con più passione, con più attenzione, con più qualità. Cioè, solo se ci mettessimo a lavorare un po' meglio tutti, ma la crescita economica del paese sarebbe il 4%. Capito? Se la gente si cominciasse allo sportello a fare meglio, la gente rispondesse meglio al telefono, capito? Se tutti facessimo meglio, rubassimo un po' meno, il paese risplenderebbe. Sono già due cose. L'Europa, sì, hai aggiunto i soldi, la BCE. Però Alberto, hai aggiunto una variabile sul rubassimo un po' meno, che è abbastanza, come dire, importante come variabile. Lavorare un po' di più e rubare un po' meno, ecco. Certo, perché... Tutte e due, le cose. Ci sono 3-4 cose che dobbiamo scoprire al nostro interno. È inutile cercare sempre, capito, di dare la colpa agli altri e di cercare le soluzioni di fuori. Va bene, noi siamo, capito? Il problema, abbiamo bisogno di un cambio genetico del cromosoma, non per cambiare. Io lo dico spesso che il problema dell'Italia a volte sono gli italiani, non è certamente solo questa il problema numero uno, però un pochino siamo così. Allora Alberto, come vedi, tu hai invitato a lavorare di più, hai detto bisogna lavorare di più. Allora, dopo la pubblicità, 3 minuti, con Alberto Forchielli parleremo di questo libro, visto che l'invito è molto chiaro, trova lavoro subito, col piccolo particolare che ho detto io, Alberto, tu inviti e spieghi come trovare lavoro all'estero, però, no? Quindi non in Italia. E cercheremo di spiegare come si trova lavoro all'estero, come bisogna prepararsi per trovare lavoro fin da subito, fin da piccolini, bisognerebbe dire, perché dalla scuola poi parte tutto. Allora, con Alberto Forchielli, tra 3 minuti siamo ancora in diretta. Allora, siamo con Alberto Forchielli in diretta da Pechino alle 8:32 minuti per parlare del libro che ha scritto con Stefano Carpigiani. Il libro, edito da Sperling & Kupfer, si intitola Trova lavoro subito. È proprio un manuale per trovare lavoro all'estero. E qui Alberto ci devi raccontare un po' di cose. Intanto, facendo un po' una domanda conseguenziale con tutto quello che hai fatto, ecco perché inviti a cercare lavoro all'estero, perché non credi più alle potenzialità dell'Italia. È per questo che hai scritto questo manuale? Sì, vorrei che il lavoro lo trovassero. È arrivato il momento di passare dal dateci il lavoro a ora me lo vado a prendere. Sì. È chiaro che il lavoro non c'è in Italia, soprattutto per i giovani, non ci sarà per molte generazioni a venire. E quindi insomma se lo devono andare, sì, a cercare, sì, dove c'è questo, quindi, lavoro? Dove c'è, qui distruggiamo delle generazioni, Lino. Diciamo, capite, non lavorare è una roba che massacra la gente sotto l'aspetto umano, non solo economico. Questo sicuramente, però l'accusa che ti fanno spesso è quella di essere in una posizione un po' anti-italiana, no? Per questo non voler credere ostinatamente che l'Italia possa farcela. Non ti senti anti-italiano nell'invitare tutti ad andarsene e a vivere all'estero? Ma io mi sento molto onesto. Prima di essere italiano mi sento molto onesto. Poi dopo io, questo senso di colpa che si cerca di generare nei giovani, tu abbandoni la lotta, vai via, devi restare a combattere, sono tutte seghe, perché cosa vuoi che facciano dei poveri ragazzi? Cioè, questo sistema non lo tira giù neanche King Kong, capito? L'unica cosa che i ragazzi possono fare è non perdere la propria professionalità, acquisirne un po' di più, e poi eventualmente, se le cose dovessero migliorare, tornare, creare delle diaspore all'estero. Ma no, non si può illuderli, rimani qui o combatti oppure poi arriverà il lavoro, ma non arriverà. Allora bisogna capire, poi ti dico la verità, la verità è questa: l'Italia non riesce a sopravvivere in un mondo globale, l'unica ricetta è autoglobalizzarsi, che vuol dire prepararsi per una sfida globale e essere disposta a lavorare in tutto il mondo. Se ti sentono i guru dell'antiglobalizzazione, cosa dicono? Ah no, ma quelli dicono che bisogna tornare in campagna a zappare, chi vuole tornare in campagna a zappare torni, io sono anche favorevole, amo la campagna, ognuno ha la sua ricetta, io non credo che vada bene per tutti, non è che io ho la pretesa che tutti seguano il mio ragionamento. C'è chi dice, guarda, in questo momento qui mi prendo 3 ettari, faccio dei pomodori, vivo semplicemente, va benissimo, ragazzi. Ognuno, capito? Ognuno le proprie scelte. Io propongo questo tipo di alternativa, che è l'unica che sono in grado di proporre. E allora, visto che la proponi, cerca di spiegarci da che cosa partire. Cioè, io voglio domani cercare un lavoro all'estero. Intanto, devo partire dalla scelta del posto, cioè, che ne so, io mi sono innamorato del Costa Rica, sono andato 2 volte in ferie, vabbè, ma è un mio amore particolare, eccetera. Cioè, devo partire dall'idea di un posto, cioè, voglio andare là, o devo partire dall'idea di cercare una professione, un lavoro? Sì, l'ideale sarebbe studiare in funzione di una certa professione che si sa essere richiesta al mercato. Ma questo non succede molto spesso, sai, a 16 anni... Ma è perché ho scritto un libro. Il problema è che i ragazzi devono fare delle scelte, Alino, quando non sono ancora in grado di farle. Appunto. Perché la vita si decide ai 15, ai 14, ai 16 anni. Io sono pieno di lettere di ragazzi che mi scrivono con 110 lode, laureati in legge, adesso voglio lavorare. Ma cosa fai con una laurea in legge? Troppo tardi, non puoi aspettare a laurearti per decidere. Capito? Le scelte vanno fatte prima, sulle lingue da studiare, sulle materie da studiare. Quindi la prima cosa, e questo anche il ruolo della famiglia è così importante, bisogna informarsi su cosa tira nel mondo, quali sono i lavori che tirano, dove tirano. E quindi cercare, se possibile, per chi vuol lavorare, di studiare in funzione di un lavoro che potrà essere appetibile. Questo però è un ruolo soprattutto quindi dei genitori, cioè cercare di capire, per i propri ragazzi, studiare un attimo il mercato, quello che a 14 anni, 15 anni, 16 anni, ovviamente tenendo conto delle aspirazioni anche dei ragazzi, non è che si può, però cercare di capire, di orientarli bene, a capire, guarda, sarebbe meglio che tu ti orientassi a fare questo tipo di professione in base ai gusti dei ragazzi. Quindi qual è il tipico errore che vedi dell'italiano? Ci hai detto delle lettere che ti arrivano, il tipico errore dell'italiano che cerca lavoro all'estero che tu riscontri? Niente, è quello di non studiare oppure studiare cose sbagliate. Ma arrivano ragazzi che hanno bravi, che non sanno una parola d'inglese, sono incollocabili. Oppure ma arrivano ragazzi con Sì, quindi l'inglese è fondamentale. Cioè, tu lo dici, tu non lo sai perché in Italia non hai letto i giornali. Oggi Repubblica racconta che nasce a Milano il primo liceo classico, il liceo Tito Livio, dove si insegneranno le materie bilingue, sia in italiano che addirittura forse tutte in inglese. Cioè, si insegneranno le materie, vuol dire anche matematica, latino, geografia, tutte le materie in inglese. La trovi una cosa giusta in un liceo? Ma scherzi. Ma scherzi, cioè, ormai se tu vai in Olanda, mio figlio vive in Olanda da 5 anni, mi ha detto che solo una volta gli è capitato in 5 anni trovare una persona, ricevere una telefonata a una persona che non parlava inglese. Ormai tutti i paesi nordici parlano tutti inglese. Quindi, tutti in Germania, cioè, ormai, capito? Cioè, quindi ormai non anche in Cina abbastanza. Quindi cioè, non sapere l'inglese è una cosa escludente proprio per trovare. Diventa impossibile, cioè, devi essere un genio della matematica, devi essere un genio della pittura per farcela, per l'inglese. Tanto che tu nel libro addirittura consigli ai genitori di non risparmiate soldi per comprare magari una casa o lasciare una casa ai figli, ma investite tutto nello studio se possibile. Ma certo, perché compri una casa, metti al figlio un ceppo al piede, è inchiodato lì, oltretutto i valori della casa sono inchiodati, per cui, capito, ormai i soldi non si sa come investirli. Io se devo 4 risparmi per investirli sui miei figli, ho visto nell'education, però in funzione di qualcosa, cioè in funzione di qualcosa di convincente. Perché c'è modo su internet di informarsi sulle dinamiche del mondo del lavoro, su dove va, che cosa è sarà in grande domanda. È una discussione molto viva fuori dall'Italia. In Italia no. Sì. E allora faccela capire perché tu ne hai parlato nel libro, e cioè ovviamente a grandi linee, poi uno compra il manuale, c'è regione per regione, se uno vuole sapere in Australia, in tutta l'Asia, in tutta l'Africa, nel Sud America quali sono, però cerca di spiegarci per punti sintetici quali sono le aree di maggiori possibilità lavorative e le zone di maggiore offerta da questo punto di vista. Guarda, la sigla è STEMCH, che sta per Science, Technology, Engineering, Mathematics, Coding and Healthcare. Quindi insomma scienza, allora, tecnologia, ingegneria, matematica, la salute, l'healthcare, cioè quindi... Coding, sì, healthcare esplosiva. Ossia, se uno ha un diploma da infermiere o fa il medico, si lavora in tutto il mondo. C'è scarsità di medici in tutto il mondo. Quindi infermieri e medici in tutto il mondo. Ma vuol dire dove, per esempio? Coding? Allora, se uno è medico infermiere, lavora dalla Cambogia alle Filippine, a Taiwan, a Hong Kong, c'è scarsità di medici. Se uno è medico, lavora ovunque. Lavora ovunque. Questo momento. Ci sono in alcuni paesi, bisogna avere la licenza più o meno, però secondo me c'è un bisogno di infermieri, ma se uno è infermiere secondo me riesce ad avere anche il visto per andare in America, per esempio, ma nelle Filippine scuole. Certo, ma tutto il resto che hai citato però sono materie scientifiche, questo si può... Sì, ormai purtroppo sì, ossia, se uno vuole studiare per divertimento... A me piace moltissimo la storia militare, ho anche pensato ad andare a fare un PhD adesso alla mia età, sono un matto. Un PhD di storia militare. Un PhD di storia militare, vi rendete conto? Quanti anni hai tu, Folchelli? 60. A 60 anni prende il PhD in storia militare, vabbè, questa è una passione. Se uno studia per passione, che lo sa, no? Studia per passione. Però, capito, non è che io ho studiato scienza della comunicazione, voglio fare il giornalista, io cosa posso fare, capito? Sono tutti disoccupati i giornalisti in Italia, ed è molto difficile che prendano un giornalista italiano non di madrelingua per andare da qualche altra parte. Vabbè, quindi si lavora nel campo scientifico, tecnologico, ingegneristico, matematico, queste sono, prendete appunti, genitori. Poi, cioè, in Italia... In Italia c'è tutta la parte, il filone della cucina, no? Della cucina? Cioè, tutto il pino, sì, pizzaioli, cuochi, capisala. Come diceva Montanelli, noi siamo un paese di camerieri. Guarda che tra un po', Alberto, tra un po', ma tra poco ti presenterò anche un ospite che, guarda, tu non lo sapevi, ma ha cambiato vita e fa il cuoco alle Seychelles. Te lo presenterò tra poco. Ed è un nostro grande ascoltatore della prima ora, ma tra poco te lo presenterò. Quindi c'è tutto il filone della cucina che tira molto ancora questo. Sì. Anche il vino, per esempio. Un enologo, sai, c'è molta gente che si fa le cantine, i nuovi ricchi, no? In Cina, quindi la conoscenza del vino paga. Ma anche un potatore andrebbe. Il problema è che i potatori non ci sono neanche più in Italia, lo fanno i rumeni, certo. Per cui però anche quella andrebbe, capito? Non è che bisogna essere dei talenti per andar via, si può andar via anche studiando qualcosa di specifico, magari qualcosa che qualcosa che è richiesto dal mercato globale. Adesso il mondo riscopre l'arte, per cui c'è grande richiesta di curatori, consulenti sulla... È una carriera complicata, però una nicchia c'è. L'importante è avere un obiettivo, fissarlo in fretta. E purtroppo i ragazzi, io il libro che abbiamo scritto, la mia paura è che i ragazzi di 15-16 anni non lo leggano. Beh, però se magari lo leggeranno, che lo leggano i genitori. Appunto, che lo leggano i genitori e prendano qualche appunto. Tutti questi dettagli ovviamente li trovate in questo manuale Trova Lavoro Subito. Però Alberto, prima di andare alle informazioni sul traffico, poi ti presento due italiani che sono proprio andati all'estero per cercare fortuna. Ok, io ho deciso che cambio vita, voglio andare da domani, o io o mio figlio lo mando all'estero. Che cosa faccio? Cioè domani cosa faccio? A chi telefono? A chi scrivo? A chi mi rivolgo? Per lavorare o per studiare? No per lavorare, voglio andare all'estero. Per lavorare in funzione di quello che tuo figlio sa fare, sul web, vede tutte le possibilità di lavoro, deve sapersi presentare, deve saper fare un curriculum in modo civile per avere, diciamo, una digital personality che si presenti in un certo modo, dopodiché il mercato del lavoro è per in funzione della propria... Se sa parlare l'inglese, se ha studiato una cosa, una materia che lo pone sul mercato del lavoro, su internet ci sono richieste di lavoro che si sta anche a rispondere. Ora voglio dire, solo in Europa ci sono 1 milione di posizioni disponibili nel software, nel programming, 1 milione di posizioni. Se sai fare quella roba lì, vai da qualunque, vai ovunque. Allora Alberto, i messaggi ovviamente sono tanti, tra cui questo come tutti questi discorsi che ci aprono un po' la mente internazionalmente parlando, cozza con questo messaggio che è arrivato da questo ascoltatore. Senti un po', Alberto, ieri mi hanno offerto un lavoro per 10 giorni, quando mi sono permesso di chiedere la paga mi ha risposto: ah no, allora così siamo già in disaccordo. Ecco, questo succede almeno secondo questo ascoltatore in Italia. Non so, la prendo per buona questa testimonianza di un ascoltatore che ci manda un sms. Allora andiamo al traffico, poi con Alberto Forchielli che ci racconta il suo libro Trova Lavoro Subito. Ci saranno anche due italiani che all'estero sono andati, Allora, insieme ad Alberto Forchielli, che è collegato con noi da Pechino, facciamo questo piccolo giro del mondo. La radio è straordinaria per questo. Alberto, tu sei a Pechino, giusto? Sì. Allora ti presento Remo Antonelli, cioè ci spostiamo rispetto a est, a te un po' a ovest, nelle Seychelles, l'isola di Ladig. Remo, buongiorno, ciao, come stai? Buongiorno ragazzi, tutto bene, grazie, benissimo, si lavora, si sta bene, si guadagna, molto bene. Una vecchia nostra conoscenza, grande nostro amico Alberto, Remo Antonelli ha lasciato l'Italia per andare a fare con la moglie, a gestire un albergo, fa il cuoco lui, lavora 18 ore al giorno a Ladig, Seychelles, capisci Remo? Esatto, proprio così, magari non sempre 18, magari saranno un giorno 14, quindi gestisco molto il mio lavoro, quindi... Una volta che garantisco il servizio fatto a dovere, grazie a Dio, la mia direzione non mi diciamo, disturbo più di tanto. Ho molta libertà. Ho visto che Alberto ci diceva che nella cucina, no, ancora molto, i cuochi italiani sono molto apprezzati. Vedi, Alberto, qui ti presento un cuoco dalle Seychelles, se ne hai bisogno nel tuo peregrinare, insomma, eccolo qua. Invece mi sposto ancora più a ovest, Alberto, aspetta, ti voglio presentare anche un signore che abbiamo già conosciuto, è da Houston, credo, no? In Texas, Gaetano Fabris. Buongiorno Gaetano, come stai? Anzi, buonanotte, che ore sono, Gaetano? Presto, cioè, sono le due quasi, sono quasi le due di notte. Gaetano fa l'architetto e, come ci ha detto una volta, fa l'architetto dei ricchi, delle case belle, no? Sì. Comunque sono da Dallas adesso. Da Dallas, fantastico. Hai fatto case ultimamente? Chiaro, business like usual. Certo, come al solito. E cosa, che casa, la casa più importante che hai fatto ultimamente? Sono tutte più importanti, sono tutte grandi. Adesso ho un banchiere che sto lavorando sopra, è una casa enorme, praticamente era già una bella casa, ma l'hanno praticamente raddoppiata in dimensioni e ci stiamo lavorando sopra. Un progetto molto strano, perché si disegna e si costruisce nello stesso tempo. Prima, normalmente si progetta e poi si costruisce. In questo caso invece non era mai successo che ho praticamente il builder che mi insegue costantemente, è finito questo, è finito quello. Insomma, una casa per un banchiere. Insomma, qui Alberto Forchielli, come vedi, due persone che emettono due dei tipici, delle tipiche qualità italiane: Remo, la cucina, Gaetano è architetto che fa le case per, ma le case, quelle ci ha fatto capire, le case quelle di lusso, no? Adesso per un banchiere, le grandi case americane al servizio degli stranieri. È l'ingegno italiano che trionfa ancora, c'è ancora questa marcia in più dell'ingegno italiano, Alberto? Sì, ossia, sai cos'ha l'italiano? Primo, è abbastanza ben voluto. Secondo, ha una enorme capacità d'adattamento. Sì. Terzo, esce da un ambiente così difficile e così antipatico come l'Italia di oggi, che all'estero la maggior parte dei paesi gli sembrano molto facili e quindi se ne va abbastanza liscio e felice, perché è abituato a tutte queste difficoltà interne in società che spesso sono più meritocratiche. Per cui sì, l'italiano che emigra di solito fa molto molto bene. Noi abbiamo storie di immigrazione fantastiche, capito? Certo. In giro per il mondo, in Australia, in Canada, in America, ma è una storia fantastica. Vediamo se è così. Remo, ti senti ben voluto, cioè hai trovato questo distacco dall'accoglienza di Seychelles rispetto a quello che magari è un ambiente un po' chiuso in Italia, Remo? Innanzitutto, per quanto mi riguarda, thank you to Seychelles every day of my life, nel senso che comunque ho trovato opportunità, possibilità di crescita, possibilità di imparare, possibilità di lavorare, indipendenza lavorativa, non ho dietro sindacati che mi dicono che devo lavorare 4 ore piuttosto che 5 piuttosto che 6, ma gestisco assolutamente il mio lavoro in modo indipendente. Sì, diciamo che è vero, io sono assolutamente d'accordo con Forchielli, anche se io una cosa, proprio io penso proprio anche gente che tipo fa legnami, gente che vuole fare lavori molto particolari, noi abbiamo molti italiani che secondo me all'estero possono fare molto. Perché noi abbiamo delle capacità che altri popoli, mi spiace, non hanno. E vediamo da Gaetano, è vero che l'italiano è ben voluto? Cioè c'è ancora questo atteggiamento per cui l'italiano comunque viene ben accettato in generale? Gaetano? Io parlo come per la mia esperienza personale come architetto. Direi che partiamo già con, in una gara di 100 metri partiamo già con 5 metri in vantaggio, avendo l'Italia con la cultura, con tutto l'architettura che abbiamo, sì, noi ci guardano, dice tu, anche se non sai neanche tenere in mano la matita, ma qualcosa avrai visto, no, da quelle parti. Perché sei italiano. Per cui, sì, abbiamo, poi secondo me abbiamo anche buone scuole, non è che potrebbe fare meglio, però insomma la preparazione è buona. Sì, partiamo decisamente ben voluti, e forse anche eccessivamente, secondo me, a volte. Danno credito per cose che veramente sì. Che poi uno si deve guadagnare sul campo. Però Alberto Forchielli, io vorrei capire una cosa. Dei giovani abbiamo parlato, ma se c'è un quarantenne che vuole cambiare vita, quello a che categoria appartiene? A quello che vuole fare la pazzia? Oppure c'è spazio per tutti, immagino, no? Allora, i casi sono due. O il quarantenne fa un lavoro che ha un mercato globale, se è un ingegnere, se è un geologo, se è un chimico, ci sta, ok? Altrimenti l'unica scelta è una scelta di tipo imprenditoriale. Ok. Perché ci sono dei paesi che si offrono per inserirti in un sistema e darti, diciamo, un lavoro come consulente, come dipendente, può essere gli Stati Uniti, l'Australia, la Germania, la Svezia e compagnia. Lo stesso mondo dell'hospitality mondiale, dove appunto puoi mettere anche la Seychelles, è un mondo tutto sommato strutturato, insomma. Sì. Se invece uno non ha la specializzazione, allora l'unica strada rimane quella dell'imprenditorialità. Guarda, io ne ho incontrati molti in Costa Rica di italiani che si sono trasferiti, hanno fatto ristoranti, hanno fatto strutture, baretti. Sì, ma sai cosa mi hanno detto? Che pagano il 13% di tasse. Il 13%. Lo so. Costa Rica è un paese, un altro paese che sta esplodendo, per esempio, la Cambogia. Un altro paese che sta esplodendo, per esempio, la Birmania. Costa Rica lo metto in lista. In Africa ci sono diversi paesi, ma non sono in grado di dire quali, perché non conosco bene l'Africa. Sì. Ok? Però ci sono anche nelle repubbliche centrali asiatiche, ci sono, vogliono bene gli italiani, ci sono posizioni, ci sono opportunità territoriali. Paese però per paese. Il discorso si fa diverso. No, ma è chiaro, paese per paese li trovate in trova lavoro subito, in un flash. Gaetano, tu quanto paghi di tasse a Dallas? Guarda, io ho fatto un conto globale fra quello che prendo e quello che mi rimane pulito. Siamo sull'ordine del 27%. 27. Con una famiglia di 4. 27. Remo, tu? Seychelles? Il 15%. Ragazzi, come dice il premier Netanyahu israeliano? What? 50%? What? Voleva dire what the fuck, probabilmente, ma si è trattenuto. Grazie, il libro Trova lavoro subito, Sperling & Kupfer, scritto da Alberto Forchielli con Stefano Carpigiani, lo trovate da oggi in tutte le librerie italiane, anche in formato ebook. Stavo dicendo a domani, noi andiamo avanti fino alle 9.30, fino alle 9.30, dopo il giornale radio. Buongiorno da Maurizio Melis. Tra i danni più gravi causati dai terremoti c'è senz'altro anche la distruzione di edifici storici. Questi ultimi sono anche i più difficili su cui eseguire interventi antisismici, perché devono risultare questi interventi, oltre che efficaci, anche invisibili o comunque molto poco invasivi. Ebbene, questa sera a Smart City parleremo di una ricerca dell'Enea che ha messo a punto una procedura capace di isolare un edificio dalle onde sismiche senza modificarlo in alcun modo. L'intervento infatti è completamente sotterraneo e consiste, in estrema sintesi, nel dotare di speciali ammortizzatori l'intero edificio, ma anche strutture più grandi, per esempio delle dimensioni di un isolato. Oltre che agli edifici storici, questo approccio, senz'altro più complesso e costoso dei metodi tradizionali, può essere applicato nel caso degli impianti industriali soggetti a rischio di incidente rilevante. Questo per limitare al minimo l'intrusività dell'intervento in questi ambienti così delicati. Ne parliamo questa sera a Smart City, qui su Radio 24, alle 20.50. Una buona giornata a voi tutti. Audi ti aspetta su audiinnovativethinking.it, la piattaforma delle idee e delle persone che aprono la strada al cambiamento. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore. Con Sebastiano Barisoni. In un panorama economico dove l'incertezza, per usare un eufemismo, regna ancora sovrana, ieri è arrivata una buona notizia sul fronte dei consumi degli italiani. Il dato di ieri diffuso dall'Istat è confortante: l'incremento nell'aumento delle vendite al dettaglio registrato nel mese di giugno rispetto al giugno del 2014 è il più alto da un anno a questa parte, l'1,7% in più. Crescono crescono in maniera anche significativa soprattutto gli acquisti di beni durevoli, dall'elettronica ai supporti musicali, passando anche per l'automobile. La sensazione in realtà è che qualcosa si stia muovendo sul fronte dei consumi, alla luce anche degli indicatori della fiducia delle famiglie e delle imprese, che sono tornati su livelli alti. La Coldiretti ha fatto anche notare come per la prima volta siano aumentate anche le vendite delle piccole botteghe alimentari, un 2,5% che non si vedeva da almeno il 2008. Cosa serve a questo punto per poter dire che, seppur lentamente, i consumi sono tornati a salire? Serve che questo dato si veda anche nell'andamento del PIL. La prima stima sul trimestre è molto deludente, e serve che questo dato coinvolga anche i consumi di beni non durevoli, i consumi che avvengono quindi non per una sostituzione di un bene, ma dove c'è la scelta se acquistare o no, e quindi dove maggiormente si vede la prospettiva nei confronti del futuro. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Mattino. Allora, sono Alessandro Milan, andiamo in diretta fino alle 9.30, come sapete per tutto il mese di settembre vogliamo parlare anche oggi del tema che trova maggiore prime pagine sui giornali, vale a dire il tema dell'immigrazione, perché le novità oggi mi ha colpito sul Corriere della Sera, si racconta come siano 116.127 le persone sbarcate dall'inizio dell'anno, con 686 sbarchi. Sapete qual è la regione in questa grafica che ha messo il Corriere? La fonte è il Ministero dell'Interno. La regione che ha accolto il maggior numero di questi immigrati è la Sicilia, il 15% sono stati accolti dalla Sicilia dall'inizio dell'anno. Poi la Lombardia al 13%, 11.906 migranti. Poi il Lazio con il 9%, quindi la Campania l'8% di questi arrivi. Il Veneto è al 7% come il Piemonte, via via poi tutte le altre regioni. Però si cercano 20.000 nuovi posti, questa è la nuova cifra, perché continuano ad arrivare le persone e sono esauriti i posti dove metterli nell'attesa magari di esaminare le loro domande di status di rifugiati o di profughi. Certo, sul tema immigrazione pesa moltissimo anche questa vicenda terribile di cronaca avvenuta a Palagonia, in provincia di Catania, dove una coppia di coniugi è stata uccisa in maniera brutale nella loro villa, nella loro casa, e il maggiore sospettato, dice la procura, quasi certamente è questo ragazzo ivoriano della Costa d'Avorio di 18 anni che era ospite del centro di Mineo in provincia di Catania. Intanto saluto proprio il sindaco di Palagonia, Valerio Marletta. Sindaco, buongiorno, grazie per essere con noi ovviamente. Buongiorno, grazie a voi. Saluto anche il sottosegretario all'interno Domenico Manzione che torna con noi. Buongiorno sottosegretario, eccoci. Buongiorno. Ovviamente buongiorno. Arriviamo alla vicenda anche di cronaca, perché le parole, anzi gliele voglio far sentire subito, le parole ovviamente molto addolorate, molto anche accorate della figlia, di una delle figlie per la verità di questi coniugi uccisi, le senta, perché tirano in ballo proprio la responsabilità del governo secondo questa signora. Io mi sono fatta 1500 chilometri per venire qui a trovare i miei genitori non più vivi, ma massacrati da delle bestie che il governo si ostina a portare ancora e accogliere. Io voglio un contatto diretto dal ministro, dal premier Renzi, che invece di andare ogni giorno all'Expo venga qui a vedere la situazione com'è, perché due anziani dopo una vita di sacrifici non possono essere ammazzati così. Allora, sottosegretario, non era un po' il silenzio delle istituzioni? Non ho sentito parole da parte del Presidente del Consiglio, una risposta non era dovuta a questa signora, al di là del dolore ovviamente che sta subendo? Ma Milano, il discorso è questo, le parole della signora sono assolutamente comprensibili, perché sono dettate da un fatto tragico e dal dolore e dalla rabbia che si accompagna a esso, e quindi rispetto a questo secondo me un silenzio e una comprensione sono le risposte migliori. E poi ovviamente c'è una parte che è difficilmente condivisibile, perché appunto proprio perché è dettata dal dolore e dallo sconforto nel quale lei è precipitata. A me ha colpito per esempio il Corriere della Sera di ieri, se lei l'ha visto, nella stessa pagina c'era da una parte questo tragico episodio rispetto al quale ovviamente tutti ci aspettiamo una risposta adeguata da parte delle nostre istituzioni, a cominciare da quella giudiziaria, però immediatamente accanto c'era la morte di un cittadino ucraino che per sventare una rapina nel Napoli, esattamente, lei dice non le piace l'idea di volere poi identificare tutti gli immigrati sono né l'uno né nell'altro, tutti non possono essere generalizzati né riportati né al primo né al secondo tipo, ecco, questo certamente. Però vorrei dal sindaco Marletta, oltre a un commento di qual è la situazione, si è parlato sui giornali addirittura del rischio che ora parta qualche moto di rabbia nei confronti di questi migranti, e sarebbe errato perché sappiamo che le responsabilità penali sono individuali o della persona o delle persone che hanno compiuto questo gesto. Però ci racconti com'è il clima lì a Palagonia, sindaco? Niente, nel paese ovviamente qualsiasi tipo di atteggiamento, qualsiasi tipo di commento è condizionato ovviamente dalla partecipazione emotiva a un dramma così pesante. Io ho sempre detto in questi giorni che quando la gente inizia, e non è ovviamente condivisibile e neanche giustificabile, inizia a pensare a forme di autotutela, a forma di difesa fai da te o addirittura anche a possibili atti repressivi, e quando magari sente la mancanza dell'istituzione, la mancanza dello Stato. Ieri noi abbiamo avuto un incontro in prefettura a Catania per il tavolo per l'ordine pubblico, ed è stato questo che ho chiesto alle istituzioni tutte, partendo dal comune, al prefetto, al rappresentante del governo, a tutte le forze dell'ordine, quello di fare sentire ancora di più la presenza dello Stato in questo territorio, perché quando la presenza dello Stato è forte, quando la vicinanza dal primo all'ultimo cittadino, sia bianco sia nero, di questa Repubblica Italiana è forte, viene meno qualsiasi forma. E lei l'ha sentita questa mancanza almeno in questi giorni? Guardi, qua abbiamo un problema pratico, un problema di sicurezza nel territorio che va oltre, lei diceva bene, le responsabilità penali sono individuali, non sono né di razza né di etnia né di appartenenza a una nazione. Il rischio in un paese come il mio, un paese comunque già complicato, un paese che è stato vittima di connivenze con il fenomeno mafioso, è un paese che ha già lamentato purtroppo l'assenza di spesso anche di forme di controllo del territorio. Sì. E ne approfitto, visto che c'è il sottosegretario, perché non mi posso continuamente avere la risposta del fatto che ci sono tagli, che vengono tagliate le forze dell'ordine. Cosa vuole chiedere al sottosegretario? Una maggiore sicurezza, un maggior controllo del territorio? Una maggiore sicurezza, ma anche un maggiore controllo di quel centro. Guardi, io faccio ma infatti la domanda è banale, la faccio prima al sottosegretario. Sottosegretario Manzione, ma questa persona poteva uscire, cioè si può uscire tranquillamente, entrare e uscire dal centro di Mineo, che ricordo è il più grande centro d'Europa, poi magari parliamo anche del fatto che... Sì, credo che il primato sia stato oramai perso perché Calais credo che l'abbia superato. Ma si può entrare e uscire? Tenga conto che è un CARA, un centro di rifugiati e richiedenti asilo, quindi in teoria per direttiva europea i soggetti che hanno presentato una domanda, una richiesta di asilo o di protezione internazionale non possono essere limitati nella libertà personale se non nella fase spostarsi antecedente alla sua integrazione. Però il sindaco ha ragione, chiarisco, nel senso che più che un problema di controllo del territorio, lì c'è un problema di dimensionamento di quel centro. Sì, però leggo sulla stampa e sui giornali che il Viminale, cioè il Ministero dell'Interno, cioè voi, cioè lei, pensa una stretta. Che vuol dire? Cioè li controllerete di più? No, ma le ripeto, la limitazione della libertà personale di chi ha fatto la domanda d'asilo non può avvenire se non nei casi in cui, in questo caso però transiterebbero all'interno di un CIE, sia pure di sezioni dedicate, nel caso in cui ci siano sintomi di pericolosità del soggetto. Questo è l'ultimo decreto legislativo che è appena stato approvato dal Consiglio dei Ministri, che è a sua volta attuativo di una direttiva europea. Ma lì la nostra intenzione, in un periodo ovviamente che non sia così compresso dal numero degli sbarchi, che lei ha dato i numeri prima, sono tutt'altro che che insignificanti, e l'idea è quella di ridurre complessivamente la portata di quel centro, in maniera, perché quindi, i centri molto grandi danno questa tipologia di problemi, esattamente. Sindaco, la rassicura questa cosa, cioè il fatto che almeno si ridurranno le unità, e che chiaramente più ci sono persone più il controllo è difficile. Guardi, noi siamo da sempre, dal 2011, da quando è nato il CALA per la chiusura, la nostra è una posizione che è completamente avversa a quella di un politico come Salvini, che comunque chiede la stessa cosa. Infatti ne approfitto per dire che il nostro non è solo una richiesta di maggiore, diciamo, controllo dell'ordine pubblico in generale del territorio, ma anche una richiesta che si cambi totalmente registro sulla gestione del fenomeno migratorio. Oggi il CARA di Mineo, dati ufficiali di ieri dal prefetto, ha 3.080 ospiti, di cui solo 1.500 in questo momento attendono comunque risposta dalle commissioni. Anche questo, sottosegretario, cerchiamo di accelerare le procedure nelle due commissioni delle prefetture di Catania e Siracusa, perché è impensabile che un migrante resti in attesa 16-18 mesi, questi sono dati, al CARA di Mineo per attendere una risposta o un diniego alla propria richiesta. E poi io dico una cosa, sottosegretario, noi paghiamo milioni e milioni di euro, allora, al di là degli scandali di mafia capitale, in quella struttura, oltre che al controllo, è prevista tutta un'azione giusta, che è quella della mediazione culturale, che è quella degli psicologi, degli assistenti sociali che dovrebbero seguire questi ragazzi nel proprio percorso di integrazione. E ci sono? Tutto questo purtroppo oggi non avviene. Non ci sono i servizi per i cui vengono pagate? Cioè, si fa un... Io spero che ormai da un paio di mesi, ieri prefetto ci ha dato rassicurazioni, visto che è stato di fatto tutto commissariato, e ci sarà una gestione diretta di fatto da parte dello Stato con dei commissari nominati dal Ministero, presumo, che ci sia anche un rapporto maggiore con i comuni, perché il rischio è di creare una bomba in mezzo a nulla. Io l'ho sempre considerato un grande posto di disgrazia. No, ma è chiaro che poi dopo le tensioni sociali rischiano di esserci. Però vorrei capire dal sottosegretario, visto che anche lei, sindaco, ha citato Salvini, anche se dicendo per motivazioni politiche ben diverse, però anche lei per la chiusura come Salvini, allora vogliamo sentirlo. Ieri Salvini è stato molto duro su questo, così poi il sottosegretario Manzione commenta. Salvini: a me inizia poi a dar fastidio che arrivino in ritardo a dare ragione a quelli della Lega dopo qualche mese o dopo qualche morto. Questo centro di Mineo, questo fottutissimo centro di Mineo, va chiuso, andrebbe sigillato domani mattina con tutti quelli che ci sono dentro. Addirittura con quelli che ci sono dentro. Sottosegretario, va chiuso e sigillato. Sigillato con quelli che ci sono dentro mi sembra un pochino grossa e difficilmente praticabile come soluzione. Tutte le azioni di cui parlava il sindaco sono tutte azioni ragionevoli e tutte azioni che il governo sta cercando di porre in essere. Abbiamo raddoppiato il numero delle commissioni, stiamo cercando incentivi in maniera tale da rendere la loro produttività il più significativa possibile, tant'è che quest'anno siamo quasi in pari tra domande evase e domande che vengono presentate. Quindi l'accorciamento dei tempi richiederà un intervento anche sul giudiziario. Però perché non ci sono gli psicologi, i mediatori culturali, dicendo che paghiamo le tasse perché ci siano? Perché, dice il sindaco, non ci sono? No, guardi, i servizi, diciamo così, che ci sono stati all'interno di Mineo sono stati oggetto di investigazione da parte dell'autorità giudiziaria e di controlli dalla parte della prefettura. Questo è quello che ha dato luogo evidentemente al commissariamento, e non escludiamo la possibilità di una gestione diretta da parte del Ministero del Centro. Quindi le azioni si stanno facendo. Quando però si dice brutalmente chiudere Mineo, significa anche poi porsi il problema della ricollocazione di 3.000 e rotte persone, come diceva giustamente prima il sindaco, numericamente, da ricollocare su tutto il territorio nazionale. Il piano nazionale va esattamente nella direzione auspicata dal sindaco, perché altrimenti la Sicilia non sarebbe alla percentuale che lei, Milan, diceva prima, ma sarebbe alla percentuale originaria, che era quella del 33%. Evidentemente un minimo di tempistica per poter ridistribuire sul territorio nazionale le persone ci vuole. Il centro di Mineo patisce questo problema, più ovviamente il numero degli sbarchi. Detto che non si possono chiudere, e in più ne cercate altri 20.000, ma è vera questa cifra che oggi leggo sul Corriere? Cioè servono 20.000 posti in più da trovare subito? Ma guardi, Milan, non è che servono 20.000 posti. Se lei fa una proiezione numerica degli sbarchi dell'anno passato e di quelli di quest'anno, vedrà che i numeri sono grosso modo corrispondenti. Ci sono 3-4.000 persone di differenza. Questo significa che di qui a fine anno noi non avremo una cifra inferiore a quella dell'anno scorso, che sono stati 170.000, come lei ricordava prima nel corso del telegiornale. Quindi vuol dire che da 116.000 in realtà avremo bisogno di molto più posti che non i 20.000, ma il piano funziona esattamente così. Il piano non prevede numeri perché si occupa solamente della gente che è già sbarcata, sì. Quindi propone una distribuzione solidaria, solidale e diffusa per evitare i Mineo, giusto appunto, sì. In relazione al numero degli sbarchi. Il problema è sempre quello. Lei ci ha detto, sottosegretario, avete raddoppiato le commissioni. Sì, esatto. Il problema è che dovrebbero essere forse quintuplicate, se stuplicate, cioè perché ci vuole un anno? E poi un'altra questione, lei è anche un magistrato. Non è il caso, sì. Non sarebbe il caso di abolire il ricorso d'appello se ti respingono la domanda? Basta, ci sono degli avvocati che vivono grazie a questo, fanno gli appelli, i contrappelli, e la persona rimane qui un anno e mezzo. Iniziamo ad abolire l'appello, fai una domanda, viene respinta o viene accolta, basta, è finito. Lei ha perfettamente ragione, però va calcolato, ecco, perché è bene, come dire, che i nostri ascoltatori sappiano tutta il percorso senza soluzione di continuità. Allora, lei ha perfettamente ragione, però tenga conto che, per esempio, i tempi di decisione delle nostre commissioni ora sono rientrati assolutamente negli standard europei. Entro sei mesi. Adesso stiamo lavorando sulla tempistica del giudiziario. Non si può eliminare il ricorso perché, oltre a essere previsto da carte internazionali, siccome il diritto d'asilo è considerato, giusto appunto, un diritto di carattere soggettivo, non si può eliminare il ricorso al giudice. Si può però cercare di accorciare i tempi del giudiziario il più possibile, e anche su questo stiamo lavorando. Nell'ultimo decreto legislativo che io le ho appena citato è stata messa una tempistica per le decisioni giudiziarie. Sì. In più stavo lavorando col CSM per cercare di rinforzare le strutture giudiziarie dove maggiormente incidono i ricorsi. È lì che si crea tutto l'ingolfamento di persone. Però tenga conto che, siccome tutto si tiene, come dicono i francesi, quelli ai quali non viene riconosciuto il diritto d'asilo, che nel nostro paese oggi come oggi, quest'anno la percentuale è circa il 50%, poi hanno comunque bisogno di accordi di riammissione con i paesi di origine, altrimenti, anziché all'interno del circuito, lei se li ritrova in mezzo alla strada o ai giardinetti o a fare cose magari anche peggiori. Perché noi insistiamo sul rimpatrio europeo, sulle blacklist europee o sulle whitelist europee e così via dicendo. E sul diritto d'asilo europeo. Esatto. Le chiedo questo prima di andare a un ascoltatore, anche al sindaco. Libero oggi, vabbè, è un quotidiano non sempre tenero con il governo, anzi mai tenero con il governo, titola così: il governo è complice degli immigrati assassini, riferito al caso di Palagonia. Però le parole, sebbene più sfumate, ma le ha dette anche la figlia, cioè lei davvero come rappresentante del governo, lei non come persona singola, non sente davvero di non avere alcun tipo di responsabilità in questa vicenda tragica, di complicità, di connivenza ovviamente nel tipo di gestione? Glielo dico veramente in tutta sincerità, se io fossi, come dire, avessi lo stato d'animo di chi è complice in una vicenda di questo genere, sarei già andato a casa per i fatti miei, cioè voglio dire, non avrei avuto bisogno. Però se lei analizza tutta la frase che ha detto la signora, li fanno venire qui per poterci ammazzare e così via discorrendo, si rende immediatamente conto che è il frutto di una situazione di dolore comprensibilissima rispetto alla quale dal punto di vista umano siamo tutti assolutamente vicini, ma che da un punto di vista logico o politico evidentemente non tiene. Quindi mi stupisco molto che venga presa come dire, come se fosse un'affermazione politica incontestabile o indiscutibile da parte di qualche esponente politico e ne venga poi fatta un argomento di discussione politica. Vorrei sentire Marco che ci chiama da Fermo all'800 24 00 24. Marco, buongiorno. Buongiorno Milan, buongiorno sottosegretario. Ma guardi, io riporto alla cronaca un fatto che è successo un paio di mesi fa proprio nella cittadina di Campiglione, dove un extracomunitario ospite di queste strutture uscito senza controllo, quindi è praticamente andato in questo centro commerciale a delemosinare qualcosa, sentendosi comunque rispondere anche sgarbatamente dalla gente fortunata, ha pensato bene di prendere una transenna, un pezzo di ferro, e distruggere tutte le macchine che erano lì presenti. Ora mi chiedo io, tra l'altro tante di queste macchine erano di persone persone che non erano nemmeno assicurate con incendio e furto. Ora dico io adesso, che controllo abbiamo noi? Cioè, che situazione stiamo vivendo in Italia? Io guardi, sulla questione del controllo però il sottosegretario ci ha detto che per la legge chi è in un centro per richiedenti asilo non può essere limitato nelle proprie libertà. Cioè non è che non è un carcere. Ho capito, però non può essere limitato nelle proprie libertà, ma non ha diritto nemmeno. E tra l'altro questo ma chiaro, centro, non ha diritto di fare quello che ha fatto, sarà stato immagino preso, arrestato e... No, assolutamente, questa persona è ritornata nel centro, questo centro non si è fatto praticamente carico delle spese delle macchine distrutte di persone. Capito, che ma è un reato distruggere le macchine, non è stata arrestata una persona così? Assolutamente, è stato fermato trattamento sanitario obbligatorio. Ah vabbè, questa è una situazione anche diversa, però se ha un disagio di malattia mentale è una situazione diversa. Comunque accolgo questa testimonianza, Marco, e la ringrazio. Sindaco Marletta, quando è che ci saranno i funerali? È già stato stabilito? Sì, guardi, stamattina la famiglia è andata in procura per avere di fatto il sequestro delle salme, perché ieri fino a tarda serata hanno finito in nottata, perché puoi immaginare, no? Anzi, speriamo che gli inquirenti arrivino presto, diciamo, a tutte le verità, perché probabilmente ci dovrebbero esserci dei complici, infatti. Sì, sì, sì. Così almeno dice il procuratore. Io sono un garantista fino alla fine, quindi vedremo anche come finirà in generale la questione. Dicevo, comunque stamattina sicuramente avranno il dissequestro delle salme, e si è concordato con la famiglia che si utilizzerà un posto di proprietà del comune di Paragonia per allestire la camera ardente, probabilmente già da oggi pomeriggio alle 16, e poi per il funerale con ogni probabilità, perché devono rientrare dei parenti dall'estero, con ogni probabilità si farà fra mercoledì pomeriggio e giovedì. Quelle frasi che ho sentito, ho letto sui giornali, c'è ora il rischio della caccia al migrante, detto che sono cose sbagliatissime, sono vere o sono frasi dette, sindaco, in un momento di rabbia e non ci dobbiamo aspettare nulla? Dico, ripeto, la partecipazione emotiva è tanta, ora sta a noi, in primis anche all'amministrazione comunale, comunque a non innalzare i toni, anche perché il problema è questo: si può più o meno avere delle ragioni e delle opinioni legittime su quanto è accaduto. Noi l'abbiamo espressa anche con toni anche pesanti, però dico, chi invece strumentalmente soffia sul fuoco non fa un bene né alla famiglia, non fa un bene ai cittadini della mia comunità. A me non interessa la strumentalizzazione politica. Noi come rappresentanti del territorio stiamo ponendo delle questioni al prefetto, oggi ne approfitto per porle a un rappresentante del governo, che vengano risposte, che da subito si prendano provvedimenti, che da subito si ponga fine ad alcuni fenomeni. Sono richieste legittime. Vogliamo calmare i cittadini in tutti gli aspetti che riguardano la vicenda, vogliamo che non succeda niente. Lei dice provvedete, ma è chiaro, lei dice date risposte. Però anche le autorità diano delle risposte. Io mi devo fermare, vi ringrazio il sindaco di Paragonia in provincia di Catania, Valerio Marletta, e il sottosegretario all'interno Domenico Manzione, grazie per essere stati con noi. E come detto, 24 mattino va avanti per tutto settembre fino alle 9:30, e con Lorenzo Nespoli, Alessandro Longoni, Elisabetta Fusconi, che arriva anche oggi con calma, arriva anche lei a lavorare, e Peter Bescafè in regia. Ci ritroviamo domani dalle 6:30, noi siamo puntuali, e qui, e voi cari debosciati miei, ci sarete? Chissà.